sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu hai curato becchino da parenzo, de. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Matti, siamo tutti matti. Urliamoci, insultiamo da nevrosi, siamo affetti. Spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti. Nami dati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti. Siamo veramente incoscienti. Io ho scritto ieri: arrendetevi, arrendetevi. Siete circondati dal popolo italiano. Arrendetevi. Chiedete scusa. Chiedete scusa. Chiedete perdono per quello che avete fatto. Oh, ha vinto Grillo, ha vinto Grillo. Ha vinto Berlusconi, almeno fino adesso. Potrebbe vincere anche Renzi, incredibilmente. Vi dico questo, potrebbe vincere Renzi, perché sicuramente col Senato ingovernabile ha perso Bersani. Sentite la voce mogia mogia, bassa bassa, di Pier Ferdinando Casini. Nella vita politica si vince e si perde, ma anche nella vita, è la regola generale. Noi abbiamo sostenuto una causa di cui siamo convinti, lo eravamo, ribadiamo questa convinzione, pensavamo fosse giusto parlare di questo progetto di governo del paese che Monti con tanta fatica... Attenzione, siamo ancora alle 18.36, c'è ancora tanto da scrutinare, tanto da fare. Però sentite questa frase di Sandro Bondi. Pronto? Aspetta Parenzo, aspetta. Mentre si sta concludendo questa campagna elettorale, tutti ormai riconoscono al presidente Silvio Berlusconi un temperamento, una determinazione, un'abnegazione, una capacità di discernere, di presentare soluzioni concrete ai problemi dell'Italia che lo hanno imposto alla simpatia, se non all'ammirazione di tutti, anche da parte di quanti non ne condividono i programmi o le idee politiche. Com'è cambiato l'umore nel centro-sinistra? Sentite Enrico Letta agli instant poll con la faccia sorridente. Aspettiamo di vedere i dati veri. Però adesso tra 10 minuti abbiamo la prima proiezione. Adesso siamo molto contenti. Al di sopra o al di sotto delle aspettative? Aspettiamo di essere molto contenti quando arriveranno i dati veri, però per adesso mi sembra che siamo molto contenti. Ci sono tutte le condizioni per essere molto contenti. Tutte le condizioni per essere molto contenti. Qualche ora dopo, situazione ingovernabile. Dinami dati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti, fuori ogni misura. Però se davvero il Movimento 5 Stelle fosse il primo partito in testa al Partito Democratico? Se questi sono i dati è una situazione totalmente ingovernabile, questo è chiaro. Poi ha detto pure che probabilmente si deve andare a rivotare. Sentite un esponente di Monti, il vice di Riccardi della Comunità di Sant'Egidio, candidato Marazziti, risultato di Monti fenomeno mai visto nella storia d'Italia. Se anche questi fossero risultati, in Italia non si è mai dato che al primo turno qualunque formazione abbia avuto un risultato come questo, al di là del voto potenziale di cui si poteva parlare 2, 3, 4 mesi fa, ma direi che nella storia d'Italia non c'è mai stato un fenomeno come questo. Ferrara, Berlusconi vince perché è più simpatico di Berlusconi. Berlusconi vince perché è più simpatico di Bersani. Gli errori li ha fatti, terribili, bestiali, però la simpatia è tale e la poca simpatia degli avversari è tale che sembrerebbe avere vinto le elezioni. È una cosa folle, ma a volte le cose folli succedono in Italia. Chi ha vinto le elezioni, sempre se fosse confermato. Siamo tutti matti, urliamoci, insultiamo da nevrosi, siamo affetti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti. Dove sei, Parenzo? No, amico mio, sono qui al comitato L'Italia Giusta, quella del Partito Democratico, giornalisti che assediano il grande... Vabbè, chi se ne frega, vai al sodo, vai al sodo, chi se ne frega di questi tuoi commenti inutili, dai. Al mio fianco c'è la signora Moretti. Ciao Moretti, sta per andare in diretta su Sky TG24, ma noi salutiamo il grande direttore, la signora Varetto, e la rubiamo per 30 secondi per un commento, ci chiamano ora, abbiamo un commento, il giaguaro che si è magnato, signora Moretti. No, assolutamente, l'abbiamo smacchiato un po', adesso aspettiamo di... Ma quale smacchiato un po'? Ma quale smacchiato un po'? Che smacchiato se non c'avete la maggioranza al Senato? Signora Moretti, portavoce del Partito Democratico. Cruciani, lei deve ascoltare bene quello che gli ho detto. L'abbiamo smacchiato un po', ma attendiamo i dati definitivi. Ma al massimo è Grillo che l'ha smacchiato un po'. Sky G24 che mi vedi così, a fianco a signora Varetto. Ma chi se ne frega di Sky G24? Comunque c'è un grande clima non euforico, diciamo, qui. Un clima piuttosto mesto, allora. Sì, no, inizialmente c'era un'eccitazione palpabile, tutti venivano qui a dichiarare, eccetera. Ora si vedono un po' meno, diciamo, ecco, si vedono un po' meno. Questo è il primo commento. Poi però se vuoi posso intercettare... Ma non devi, devi commentare, cioè non, questa cosa del commento. Devi fare un po' di casino. Ho qui un politico, salve. Sì, lei, ma eh? Devi, la depressione. Sì, ma la depressione... Sono politico. Ecco, è un politico. Poi la dichiarazione del signor Robè. Fammi capire la depressione. Qualcuno depresso. Sì. Voglio lei capire è la depressione. Assolutamente no, anzi, sono felicissimo. Ma come felice? È un disastro assoluto per voi. Sì, è vero, però. Però lei che gli frega, non c'è la fidanzata, no? Esatto, scusate. Ma chi è questo? Chi è? Come chi è? Chi è lei, scusi? Sono Roberto Turchi, l'ho già detto, dovrebbe conoscermi. Ma... Roberto Turchi, perché dovrei conoscerlo? Turco. Ma di che? Ma perché dovrei conoscerla, scusi? Beh, nel senso, sono un voto noto, cioè voglio dire, no? No. Ma io non la conosco, però lei Cruciani conosce il signor Turco? No, conosco Maurizio Turco dei Radicali, ma no. No, questo... Maurizio Turco dei Radicali? No, no, proprio niente a che fare. Ma lei è candidato da qualche parte o no? Assolutamente no. E perché dovrei conoscerla? Ma perché sta lì al Partito Democratico? Che sta a fare là? Ma no, è un tecnico video lui, non è un militante del PD. Ah, vabbè, ma che gli frega? Ah, è un tecnico video, ho sbagliato tutto, non riesco a... Ah, però c'è un politico vero qui, se vuoi. Aspetta. Il signor Khalid Kauchi. Aspetta, dopo. Voglio la depressione alla sede del Partito Democratico, voglio capire la depressione, se c'è depressione oppure no, Intanto, un'altra sponda depressa, quella di Monti. Albertini, buonasera, come sta? Buonasera, ma non sono depresso. Beh, come no? Un po' depresso, scusa, no, Albertini. No, non come? Sono depresso. Sono dispiaciuto per il fatto che il nostro partito abbia avuto un successo brillante. Dove? Riferito alle condizioni di partenza, insufficiente rispetto alle nostre aspettative, perché noi speravamo di avere molto di più di quello che... Beh, questo non c'è dubbio, non c'è dubbio. Però va tenuto presente che è la prima volta. Vabbè, ma queste... senza risorse, solo col volontariato, e allora a questo punto in termini relativi non è andata malissimo. Ma però che non è andata malissimo? Speravamo in un 15% pieno. Guardi che allora le ultime proiezioni sul Senato danno... Lei dovrebbe essere dentro, in teoria, Albertini, è contento in di teoria, questo? In teoria. Perché ma che dice? Non ho seguito... Le ultime assegnazioni di seggi danno al centro comunque 19 senatori, una cosa di questo tipo. Sì, ma in Lombardia, perché... Vabbè, ma in Lombardia lei è capolista, se non ne prendete uno in Lombardia dove li pigliate i senatori? Cioè, bisogna prendere l'8 però. Credo che in Lombardia le proiezioni adesso non stiamo lì a vedere i numeri, eccetera. Comunque ampiamente sopra l'8. Va adesso... Bene, allora... Ampiamente sopra l'8. Un attimo, allora, collegamento con... li facciamo in Lombardia. Ma lei sta attento alla situazione in Lombardia, vero Albertini? Sì, sto attento anche per l'altro versante. Vabbè, l'altro versante per lei che quello regionale. Ma lei che gli frega dell'altro versante? No, mi interessa. Ma in un'ipotesi c'è uno scenario e in un'altra ipotesi c'è un altro, perché... Sì, però se i dati della Lombardia del Senato sono quelli, anche Maroni mi sembra che non è difficile che possa perdere. Se i dati del Senato... Non è detto, perché i dati della Lombardia del Senato hanno la suddivisione tra sinistra estrema e sinistra, aggregata, mentre sulla candidatura di Ambrosoli tutto lo schieramento dalla CGL ai movimenti a Renzi, sono finiti lì. Anzi, io prevedo che vinca Ambrosoli come mia personale previsione, di poco. E se lo augura pure. No, beh, a questo punto possiamo dirlo, Albertino, ormai è uno scenario che decideranno i cittadini, però dalla si sbilanci, dalla somma si sbilanci, voti, si sbilanci così. si sbilanci. Preferisco che vinca Ambrosoli. No, no, io sto facendo solo un'analisi. Un attimo, che abbiamo Ignazio La Russa, Parenzo, un attimo solo, un attimo solo, che adesso abbiamo un mitico collegamento con Ignazio La Russa che ci dice la sua situazione, ma dovrebbe essere un La Russa, mi sembra, molto risollevato, no? La Russa, mi sente? La Russa? Pronto? Pronto? Niente, non mi sente, Adesso proviamo a ricollegarci. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Allora, c'è un dato abbastanza significativo, che è quello dello scrutinio vero, dei dati veri, che danno il centrosinistra in vantaggio a livello generale sul Senato, al Senato, Però poi bisogna vedere regione per regione, e secondo il professor Dalimonte e altri esperti non ci sarebbe maggioranza, addirittura ci sarebbero più senatori di PDL e Lega, 121 o 125, rispetto a quelli PD-SEL, meno di 100, con un boom del Movimento 5 Stelle anche al Senato con 65 rotti, e il centro sui 19, cioè i senatori di Monti e quelli di PD e SEL comunque non riuscirebbe, sarebbero molto lontani dalla maggioranza, dal magic number di 158, avete capito? Ecco, però attenzione, signor Cruciani, perché qui è appena arrivato un signore, chiameremo per comodità un burocrate, sì, un signor burocrate, che ha fatto un comunicato dicendo: attenti, perché siccome c'è troppa discrasia tra i dati degli Instant Pool e le proiezioni, noi vogliamo aspettare, e anche noi... No, ormai conta il dato reale e quello delle proiezioni. Detto, noi aspettiamo i dati del Viminale, dicono qui. Beh, ma certo, ma quello che ce lo dice a fare? Ma non solo, ma c'è anche una differenza con i dati che loro hanno raccolto con i loro... Ah, beh, allora quindi, sai, i dati del Partito Democratico, allora siamo a posto. Amico mio, io ti dico ma chi se ne frega? Una cosa, aspetta che sto inciampando sulle telecamere qui, spostate tutto. La Russa, super, aspetta, giallo. La Russa, no, la situazione qual è, La Russa? Pronto, Cruciani, cosa vuole sapere? Voglio sapere se è contento, mi sembra un boom di Berlusconi, alla fine, nonostante tutto... Un grande successo di Fratelli d'Italia. Ma non è vero. La nostra nazione ha governato questo successo meraviglioso, ha trascinato il PDL. Ma non è vero. E la Lega, che non è per i Fratelli d'Italia, ma è comunque nella coalizione. Siamo fortissimi, possiamo... Guardi, sto srotolando filo spinato intorno al Senato per non farci entrare i rossi. Non entreranno al Senato, li teniamo fuori. Siamo però fortissimi. Scusi, La Russa, non sembra così, cioè non avete trascinato nessuno, in realtà è Berlusconi che ha vinto, voi non avete trascinato nessuno. Non c'erano Fratelli d'Italia, non c'era neanche Berlusconi, gli abbiamo dato la forza, i mezzi Lince, gli F-104, gli F-35 che adesso compriamo comunque, perché siamo egemoni, fortissimi. Voglio ritornare con Gabriele Albertini, candidato governatore Lombardia e al Senato per Monti, perché gli voglio chiedere, però scusi Albertini, qui lei si sta preparando al suo secondo lavoro, perché diciamo la verità. Albertini, lei si sta preparando al secondo lavoro? Il mio secondo lavoro è questo del cabarettista, dice. Sono pronto. Come va il primo? No, ma appunto, da quello che sembra, ormai lei può prepararsi al secondo lavoro. Diciamo la verità. Sì, c'è ancora un anno di Parlamento europeo, poi se farò qualche spettacolino me lo organizzate, no? Noi stiamo già preparando gli spettacoli per lei. Politici riciclati cabarettisti, magari esatto. Abbiamo più successo. Esatto, scusi Albertini, però per Monti diciamo la verità. Se i comici diventano politici, i politici possono diventare cabarettisti. Ma no? Infatti lei ha un futuro assicurato, guardi, noi le assicuriamo mezz'ora al giorno. Questo devi fare, non dovevi attaccare qua questo nostro Marone, che forse non ti piace il cognome, ma è bravo, tu l'hai fatto perdere in Lombardia, dovevi stare con noi. Vabbè, adesso ancora la Lombardia non lo sappiamo. Comunque Albertini, ha sentito La Russa? La realtà è che se lei rimaneva con Berlusconi era in carrozza, cioè diciamo, non si è pentito. Ma questa è la scelta civica, no? Ma che non scelta civica? Ma è un fallimento, è stato un fallimento. Ero sicuro di diventare senatore, ma allora Monti poteva fare il Presidente della Repubblica, poteva fare... Però lo dichiari Albertini, è stato un fallimento, questa esperienza di Monti è stato un fallimento. No, non è stato un fallimento. Ma come no? È stato il primo passo verso... una vera riforma della politica italiana. Ma qui c'è ancora Berlusconi che Alessandro Magno ha fatto il primo passo di 30 centimetri, no? C'è? E poi è andato in Afghanistan 2000 anni fa. Beh, adesso il paragone con Alessandro Magni. No, appunto, ho fatto un paragone altissimo proprio per dire che si comincia piccoli e poi si può diventare grandi. Sì, no? Ho capito, ma Berlusconi è ancora al 30%. Lei ha capito la forza di quest'uomo? La sì? Forza della demagogia è livellante. Anche l'altro demagogo come Grillo ha preso tanti. Vabbè, ma non è che sono tutti cioè non è che insomma è chiaro che sia l'uno che l'altro hanno fatto leva sull'onnipotenza dei desideri e sulla quadratura dei numeri che non ci sono. Ma pensi un po', Grillo chiede di uscire dall'euro, vuole il reddito di cittadinanza e non si sa con quali. Ma secondo lei è un fascista, Grillo? E poi non vuole pagare i debiti, ma vuol dire che il nostro paese diventa Africa. Ma secondo lei saremmo cancellati dalla comunità internazionale se governasse questo comico. Ma non governerà, è evidente che non governerà. Non governerà, però può condizionare qualsiasi governo se questi sono i numeri. Ma lei spero che la protesta finisca qua e poi si comincia a pensare invece che a emettere strepitus ventris. Ma senta, ma lei pensa che Grillo sia fascista? No, io penso che sia un demagogo matricolato che sappia fare molto bene il suo mestiere di arringatore di folle e che abbia messo insieme tutta la protesta che va dagli imprenditori che non vogliono pagare le tasse del Veneto, agli ecologisti. Beh, che come quelli che non vogliono pagare le tasse. A quegli altri, e siamo dentro tutti in questi, che sono indignati per il ceto politico e poi ci ha messo dentro tutto quello lo sa che qua, è lo sa, qualcosa. Lo sa quanto potrebbe prendere Fini alla fine? Signor non Fini? Idea. 0,5, una cosa del genere. Parenzo, dove sei? Allora guarda, sono qui sempre al PD con un caro amico che è candidato tra l'altro in Lombardia con il Partito Democratico, il compagno Ernesto Carbone, che bene esprime in questo momento lo stato di smarrimento del Partito Democratico. Te lo passo un attimo. No, la depressione. La depressione, no, vai, la depressione. È qui con gli occhi lucidi, ha combattuto come un leone, anzi come un giaguaro in Lombardia, e qui te lo passo, fagli un saluto grandissimo Carbone, che è qui a guardare i dati sul monitor. Signor Carbone? Ciao a tutti. Come, signor Carbone, come stai? Depresso? No, perché è depresso? Ma su, dai. Serenamente. È depresso, molto dai, dica la verità. Aspettiamo i dati. Ho capito, però è depresso, un po' è depresso, su. No, assolutamente. Ma dovete smacchiare, fare la maggior... Ancora una volta, nonostante il disastro che è successo, non siete riusciti a vincere, ancora una volta. Ma perché? Ancora smacchieremo con calma, ma smacchieremo tutto noi. Ma come smacchiare? Tutto il pomeriggio per smacchiare la serata. Al Senato? Smacchieremo tutto. Ma se al Senato non c'è la maggioranza e non ce l'avete nemmeno con Monti, avete perso alla fine. È così. Ma chi te l'ha detto questo? Ancora bisogna aspettare. Ti ho detto con calma, smacchieremo tutto. Ma come? Con calma. Non vogliamo smacchiare alle 3:30, alle 4. Aspettiamo le 8. Beh, veramente sono le 7. Abbiamo finito di smacchiare tutto. Ma sono le 7, Carbone? Vabbè, comunque. Ma sono le 7. Ma lei è sicuro in Lombardia? Smacchieremo tutto. Ma lei è sicuro in Lombardia oppure è sicuro solo se vince? Non c'è nulla di sicuro. No, lei dove è candidato? Alla Camera o al Senato? Io in Lombardia 1 alla Camera. Ah, vabbè, ma lei è in carrozza allora. Certo, come no, con i cavalli. Con i cavalli alati, no? Con i cavalli così. Esattamente. Parla bene, lei ride bene. Quelli che sono lì in Lombardia del Partito Democratico, che sono ormai fuori praticamente, perché la Lombardia è andata al Senato, diciamo. No, aspettiamo i dati definitivi, perché vabbè, bisogna aspettare quelli, dai. Va bene. Un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao. Beh, un commento a questo punto dall'aldilà, dall'avvocato ci vuole. Avvocato, come vede questa situazione? L'ingovernabilità. Avvocato, l'Italia è ingovernabile, al Senato non c'è maggioranza. Avvocato. Guardi, veramente sono tentato di scendere dal paradiso e di risedermi tra i senatori a vita con un gesto miracoloso che adesso chiederò al mio amico Padre Eterno di riuscire a fare, perché il nostro paese è messo davvero molto male. E se tornasse a fare il senatore a vita, cosa farebbe, avvocato? Io voterei per Mario Monti. Beh, ma Monti è l'unica persona credibile che può. Ho capito, ma ha perso, però. Ha perso una battaglia, vincerà la guerra. Ah, beh, questa con è i grandi condottieri. Però torniamo su Albertini. Albertini, ma la realtà è questa, diciamo la verità, che Berlusconi è ancora in campagna elettorale, lo riconosca, lei che è stato tanti anni vicino a Berlusconi, quello che lei chiama l'imperatore, è ancora il numero uno in questi casi, con le sue trovate, con le sue follie insieme a Grillo nella propaganda. Vabbè, ma la propaganda qualche volta lei è andata bene, era lì al Parlamento Europeo, come sindaco, non è che è un Berlusconi diverso, è un Berlusconi uguale, la propaganda l'ha sempre fatta. È molto diverso, quest'ultimo Berlusconi. Io sono per il Berlusconi del 9 ottobre. cancellato da quello del 27 ottobre, che evidentemente è stato votato, i numeri sono questi, ma ha votato popolo che è stato messo nella condizione di non discernere tra l'onnipotenza dei desideri e la realtà complessa a cui doversi riferire. Va bene, grazie ad Albertini, qui la situazione grazie comunque... La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a zanzara. Sentiamo Attilio da Monza, voglio sentire subito un ascoltatore con Parenzo collegato dal dramma del Partito Democratico. Non c'è titolo del TG3, ce l'abbiamo? Sentiamo i titoli del TG3 subito. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Pomeriggio di suspense, tra proiezioni e sondaggi contrastanti, risultati ancora incerti, in Lombardia avanti il centro-destra, Lazio al centro-sinistra. Testa a testa al Senato, ultimo dato, centro-sinistra leggermente avanti, governabilità a rischio e la sconfitta di Monti al 10%. Per Beppe Grillo un'affermazione oltre ogni previsione, il Movimento 5 Stelle sfiora il 25%, grande affermazione in Sicilia. Affluenza in calo, 6% in meno rispetto alle ultime politiche. Cancellieri, maltempo può aver scoraggiato, ma chi voleva poteva votare. Borsa in altalena nel caos di sondaggi e proiezioni. Piazza Affari prima vola fino a più 4%, poi frena ma chiude in leggero rialzo, risale lo spread. Si dimette il cardinale scozzese accusato di molestie sessuali, motu proprio del Papa sulle regole per il conclave che potrà essere anticipato. Zanzara! Oh, ricordiamo che la prima proiezione sulla Camera, per esempio di IPR, da Bersani al 29,5, Berlusconi al 28,5, vi rendete conto o no? Un solo punto, poi magari cambierà, magari cambierà, però 29,5 e 28,5, Grillo 26,4, primo partito. Cioè, è o non è una sconfitta di Bersani? Parenzo, ma che atmosfera si coglie ma qui lì? Ma l'atmosfera è di attesa, voglio dire. Il giaguaro corre veloce e lo stanno inseguendo. Però voglio dirti, voglio darti una notizia. Uno, in Abruzzo sarebbe stato eletto sicuramente il signor Razzi, stando così le cose. Il commento che qui... questo per noi è molto buono, è molto buono. Io saluto Andrea Molino che è qua. Che ma chi se ne frega, non lo conosce nessuno, dai, forza, dimmi. E invece c'avevo la Pina Picerno. Sì. Pina Picerno, che era qua, che volevo fartela salutare, che mi ha detto salutami Cruciani, ma il clima qui è drammatico, scappano tutti. Ma perché nessuno vuole farsi intervistare? Perché nessuno vuole farsi intervistare? Perché c'è perché la realtà è che Renzi, in realtà, allora, se fosse stato Renzi candidato, sarebbe stata tutta un'altra storia. Diciamo la verità, sarebbe stata un'altra storia. Signora Picerno, un giovane del PD, il signor Roberto. Ma giovane di che? Giovane di cosa? Giovane, quanti anni ha lei? 22. 22 anni, giovane PD, no? Militante? Militante? Molto, militante, molto molto scosso. Ma indubbiamente la situazione a livello nazionale è in questo momento preoccupante, nel senso che noi domani mattina vedremo come sarà la borsa, come sarà lo spread e soprattutto quali sono le prospettive per il futuro di questo paese. Sì, ma lei c'ha 22 anni. Ma lei ha 22 anni, lei ha 22 anni, già mi parla come un politico consumato. Ma dica che è depresso, che è distrutto, che è andata male, lo dica. Guardi, è andata male al momento, aspettiamo i dati definitivi, comunque la parla situazione qui non è, guardi, qui il discorso è che non è il problema non è il partito, qui il problema è il paese, quello che succederà domani mattina in questo paese, perché il partito è solido. Mi dica la verità, la verità, con Renzi sarebbe stata tutta un'altra storia, diciamola tutta, sì o no? Guardi, io non dico questo per il semplice motivo che non mi sembra corretto nella maniera più assoluta, non lo so perché il Partito Democratico non fa un discorso di Bersani o di Renzi, è un partito coeso. Vabbè. Nel quale non c'è l'io, c'è il noi, c'è un partito. Non c'è l'io, ma c'è il noi. È una collettività, guardi, non mi farà mai dire che Renzi sarebbe stato meglio perché ma Renzi... lei ha 22 anni, a 22 anni mi sembra già vecchio come gli altri, mi scusi se glielo dico, le chiedo perdono, ma mi sembra questo. Lei parla come un politico qualunque, mi ripassi Parenzo, grazie signor Roberto. Franco da Bergamo, 800240024, dica. Buonasera. Ah, fammi sentire Parenzo, ti faccio sentire Cicchitto, Cicchitto contro i giornalisti, è rispuntato anche Capezzone, sono scatenati, senti. ci avete bombardato per giorni dicendo che eravamo sconfitti, brutti, sporchi e cattivi. Dovete un po' rivedere qualche giudizio. Ci avete bombardato qualche giorno, no, dice. Ha detto bombardato, ma che vuol dire bombardato? No, scusa. Bombardato voleva dire, bombardato. No. Risentiamo un attimo Cicchitto. Corradino Mineo. Ma vabbè, Corradino Mineo, vabbè, sentiamo Cicchitto. No. Te lo dico solo per informazione. Sì, sì, sentiamo Cicchitto. Ci avete bombardato per giorni dicendo che eravamo sconfitti, brutti, sporchi e cattivi. Dovete un po' rivedere qualche giudizio. Voleva dire bombardato, bombardato. Come lotta, signor Cicchitto? Come lotta? Ma tu non sai che lotta che ha fatto a TG3 con la Berlinguer? Adesso fra poco te lo faccio ascoltare insieme a Capezzone. Parlano già di scioglimento della Camera. Ma che scioglimento della Camera? Senti. No, il vero dato è la nostra rimonta. A partire dal TG3, ma anche Repubblica e così via, ci davate per morti, brutti, sporchi e cattivi. La situazione è un po' diversa e qualcuno si deve fare anche l'autocritica per la propria arroganza. Onorevole Cicchitto, ma è possibile che deve attaccare il TG3 invece di commentare il dato elettorale? Faccio l'uno e l'altra, è una brillante occasione. Me la deve lasciare invece di attaccare il TG3, diciamo, sembra proprio inutile. Brillante occasione. Come lottano con la Berlinguer, come lottano! Faccio l'uno e l'altro! Ma come? Poi c'è pure Capezzone, senti. E comunque siete il terzo partito dopo Grillo, secondo le prime proiezioni della Camera. Mariella, dai, non ci provare. Tre ore fa stavate stappando in studio le bottiglie con Enrico Letta, che già si preparava a dire che per il governo facevano da soli. Adesso volete sciogliere le Camere prima ancora che siano costituite. Allora, scusi, però, Mariella, no, per correttezza, perché sciogliere le Camere... No, per correttezza, perché sciogliere... A parte che sciogliere le Camere, l'ho detto, solo Orfini adesso in collegamento. Allora, Letta in studio non ha mai parlato di sciogliere le Camere. Enrico Letta qualche ora fa. Ascoltatori, vediamo come hanno preso questo esito delle elezioni, ancora tutto da decifrare. Franco da Bergamo, buonasera Franco. Buonasera Cruciani, buonasera. Senti Parenzo, se hai qualche altro campione del Partito Democratico da farci ascoltare prima, sì, come prima, sì, mi raccomando. Io al mio fianco il grandissimo Corradino Mineo. Oh Corradino, come stai? Corradino Mineo, aspetta che te lo passo così lo saluti, sta concionando con un collega della stampa, è Cruciani che ti vuole, Cruciani ti vuole salutare. E stai tremando sì o no Corradino? Ma io non tremo proprio, anzi. E te credo, sei eletto, sei già al Senato. Ma non solo sono stato eletto, tu sai quella storia famosa, cioè quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. Io avrei preferito che le cose andassero diversamente, ma tutto sommato questo è il mio momento. Ma com'è in Sicilia la situazione? Mi sembra che il premio di maggioranza va al centrodestra, o sbaglio? Mi pare che il premio di maggioranza al Senato non ci sia, quindi c'è una situazione sostanziale ingovernabile. Scusami, bene. Corradino, ma non ti conviene aspettare un attimo prima di metterti dalla RAI? No, io mi dimetto assolutamente, questo è il momento della politica, io so fare politica, mi piace fare politica, intendo fare politica, non hai capito? Cioè, c'è proprio bisogno anche di persone come me. Dimmi Grillo, dimmi qualcosa su Grillo, che è un trionfo assoluto. Quanto ti dà fastidio questa cosa? Non mi dà assolutamente fastidio. Lo trovo come quasi naturale dopo 20 anni di berlusconismo. Cioè? La gente ha detto basta. C'è l'erede naturale del populismo di Berlusconi e Grillo? No, c'è un basta generale. Hanno votato per Grillo tantissime persone per bene che non ne potevano più di questo regime illiberale e ingiusto. Il regime liberale e ingiusto di chi? Purtroppo di Berlusconi, del centrodestra, gruppo di Berlusconi. Veramente non ne possono più nemmeno del centrosinistra, evidentemente. Va bene, purtroppo, mi fai finire, hanno accumulato in questo giudizio negativo anche il centrosinistra. Sì. È un problema politico del centrosinistra. Di Bersani, ma non è una sconfitta di Bersani, dillo chiaramente, è una sconfitta di Bersani, se il PD ha quei risultati che sembra avere, 25-26%, è una sconfitta clamorosa di Bersani, o no? La prima sconfitta è quella dei giornali italiani che hanno montato il fenomeno Monti, hanno montato il fenomeno Ingroia, hanno fatto credere agli italiani che si votasse con una legge proporzionale mentre si votava con il maggioritario. Sconfitti i giornali, non mi pare, sconfitti allora, i giornali. Guarda, io dico che se qualcuno è stato sconfitto in questa vicenda sono sondaggisti e giornalisti, molto più dei politici. E Bersani? Berlusconi si è presa la sua rivincita. Bersani come ne esce? Bersani ha condotto una buona battaglia e ha comunque ottenuto un risultato in situazioni difficilissime e rappresenta per il futuro una ancora di solidità. Ma in questa situazione tu gli daresti l'incarico? Il Presidente della Repubblica, certo, gli daresti l'incarico in questa situazione a Bersani? Assolutamente sì, anche perché se non dai l'incarico a Bersani avremo una crisi scomposta e le conseguenze sui mercati e sull'immagine dell'Italia sarebbero tremende. Spero assolutamente che Bersani dal dato definitivo sia confermato. Se la Camera c'è la maggioranza, ovviamente. Se la alla Camera è anche in questo momento a metà dello scrutinio con un vantaggio in voti, non in seggi ma al Senato. Ho capito, al Senato i seggi. Questa doppia cosa dovrebbe convincere il Presidente Napolitano a dare l'incarico. Ma tu cercheresti, scusami Corradino, questo l'hai detto chiaramente, tu cercheresti un accordo al Senato con i grillini? Io cercherei un accordo non al Senato, cioè cercherei... No, con i grillini eletti al Senato. Con i grillini dovunque, cioè gli direi che cosa volete fare? Falso in bilancio l'approviamo, nuova legge elettorale l'approviamo, conflitto di interessi l'approviamo, e gli sfiderei sul terreno della democrazia per non tradire questo popolo arrabbiato. Cioè no? Tradendo Grillo i senatori eletti con i 5 Stelle non dovrebbero tradendo mettersi... Tradendo nessuno, cioè... Dovrebbero mettersi la mano sulla coscienza, giusto? Dovrebbero mettersi la No, queste persone hanno detto basta. Allora, fuori dalle chiacchiere, io mi sento uno arrabbiato non meno di loro e esprimo anche una radicalità rilevante. Voglio capire se davanti a questa radicalità, che noi sappiamo esprimere, anche Bersani saprà esprimerla sicuramente, che cosa fanno? Se poi non vogliono far nulla, punto, prenderemo atto. E troveremo comunque una soluzione. E si andrà a rivotare, probabilmente si andrà a rivotare. Sì, ma vedi, tu lo sai che prima di rivotare ci vuole il passaggio dell'elezione del Presidente della Repubblica, no? Sì, ma infatti è complicato. Allora, il primo problema è la domanda. Però che scusami Corradino, però la cosa interessante è questa, che mi sembra che venga fuori. Tu saresti, siccome sei al Senato, che dove si giocherà probabilmente tutta la partita, tu da senatore del Partito Democratico cercheresti di convincere quelli eletti col 5 Stelle a fare un governo, a entrare comunque da cosa faccio io al Senato? La prima cosa che faccio è dico: sicuramente una cosa non sono disposto a fare, un accordo con Berlusconi, neanche istituzionale. Ho capito, perfetto, grazie. Ehi. Gravid, sei stato perfetto fino adesso, non peggiorare la situazione. Franco da Bergamo. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Niente, mi chiedevo come viene preso nell'ambiente di Radio 24 questo risultato. Ma chi se ne frega di Radio 24, scusi, no, abbia pazienza se glielo dico. Permetta, io non me ne frego affatto, perché siccome sono un ascoltatore abituale... E vabbè, ma qual è il problema? Qui ci sono le opinioni politiche... Il problema è che avete preso in questi ultimi tempi una deriva sinistroide... Ma l'avrà presa lei la deriva sinistroide, ce l'ha in testa lei la deriva sinistroide. Non è stato vero. Ma ce l'ha in testa la deriva sinistroide lei? Non ce l'ho, li sento i notiziari come li fate. Ma quali notiziari? Ma la faccia finita con di dire stupidaggini. Non alzi la voce. Ma dice delle stupidaggini sesqui pedali. Quindi il giornale radio non ha nessuna posizione politica, non dica stupidaggini. Me ne accorgo benissimo, se ne accorgono tutti. Ma lei è bacato in testa, glielo dico io, come diceva un altro. Come no? Ma lei c'ha la deviazione politica, ce l'ha in testa. Li ho sentiti i vostri notiziari. Ma quali notiziari? Ma come fanno? Ma se la prenda con me, non con i notiziari, se la prenda con me, con i notiziari che c'è bisogno. No, cioè... ma perché mi ha dato la parola a lei? Non me la prendo infatti con lei. Che ecco, lei se la prenda con me, se la prenda con me. No, ecco, io lo dico, siccome mi ha detto cosa dovevo dire, l'ho detto. E infatti lei è uno dei meno. Ma quali meno? Ma quale deriva sinistrode? Ma c'è lei, c'è la deriva sinistrode. Il problema è che lei ce l'ha in testa, lei è ossessionato da questa cosa. No, ce l'ho in testa, scusi benissimo. Scusi, ma chi sarebbero? Provi a sentire chi vi ascolta. Perlomeno ma quale deriva sinistroide? Ma la faccia finita, ma lei ce l'ha in testa, lei ce l'ha in testa. Lei è ossessionato, lei è ossessionato. Credo di trattare così, non la faccia finita. Lei è ossessionato, o lei è ossessionato? No, ha chiamato lei veramente. Che dica che avete invece la deriva destroide. Ma non abbiamo nessuna deriva, questo è il punto. La deriva ce l'ha lei, l'unico che è malato e che è ossessionato è lei. Noi non abbiamo nessuna deriva, né di destra né di sinistra, ognuno ha la sua idea. Qualche volta la esprime perché ha la possibilità di esprimerla in una trasmissione, altre volte per quello che riguarda i giornali radio nessuno esprime idee politiche, si danno notizie e fatti. Bisogna che lei se lo metta dentro la testa, dunque l'unico deviato al limite è lei. Zanza, zanza, zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanza, zanza, zanzare, una parola d'uma dirà te più triste. Arrendetevi! Arrendetevi! Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili! Parenzo, arrenditi anche tu lì al Partito Democratico, arrenditi! Ho la parrucca, allora, guarda, ho la parrucca e gli occhialetti, ho la parrucca e gli occhialetti, arrenditi! Siamo in diretta con Radio Casaleggio, è vero. Io però qui ho un collega della stampa giapponese, giusto? You are from Japan? No. No, Cina? No, Japan. Japan? Journalist? Yes. Perché sei venuto al Partito Democratico, amico collega giapponese? Why you come here in the Democratic Party from Japan? Why? Why, brother? Perché, fratello? Perché? In English, it's international radio, it's radio of signor Squinty. You know Squinty? No. No, come no? Sì, devo dire. No, giapponese, amico mio. Italian accent, very important. No, in giapponese. In Japanese. Speak in Japanese, please. Italia選挙は世界の経済にとってものすごい影響が、 sì, ha detto che Cruciani è un coglione e che ha votato 5 stelle. Scusa, sì, prego, chiedi cosa scusami, chiedi cosa pensa di Grillo, scusa, in inglese però. What do you think about Beppe Grillo, Mr. Grillo? What do you think in Japan? Grillo の動きに関しては In English now, because it's difficult to translate from Japan, brother. Grillo is very curious. Situation. Ecco, dice che Grillo è una persona molto curiosa, ma che invece Cruciani è un coglione perché l'ha votato. Un andavino in Siberia. Andate a fanculo, basta. Marco da Padova, 800240024. Ricordiamo che prima il signor Corradino Mineo, ex direttore di La News 24, sicuro senatore per il PD in Sicilia, nonostante la sconfitta del PD in Sicilia, ci diceva che bisogna comunque dare l'incarico a Bersani, sempre se vincerà la Camera, ovviamente. E bisogna corteggiare i grillini al Senato. Vabbè, Marco Padova, buonasera. Salve, buonasera, bellissima giornata di festa secondo me oggi, anche se il PD ha perso e se Berlusconi, voglio dire, ha rimontato. Volevo fare solo un appunto. Sì. Mi dispiace che uno come Corradino Mineo, dall'ambito anche della sua esperienza, sì, metta già a priori che lui propone nessuna alleanza con Berlusconi. Secondo me, se non ci sarà una maggioranza forte, bisognerà fare un governo coeso, di unità nazionale, si mettono sul tavolo 10-15 punti e si fanno. Ma chi lo fa sto governo di unità nazionale? Chi lo fa? Si mettano seduti attorno a un tavolo e per evitare con cataclismi internazionali e speculazioni troveranno dei punti in comune. Allora, no, se proiezione hanno un po' di MG alla Camera per Repubblica, PD Sel 29-1, PDL Lega 28-3, solo 0,8 secondo l'ultima proiezione, ripeto, EMG. 5 Stelle 26-7, primo partito, Monti 10-7, Ingroia 2-3. Bene, grazie Marco. Giancarlo, provincia di Milano, vada. Non c'è. Luigi da Milano. Sì, buonasera. Vada. Una considerazione velocissima. Tornando a casa stasera, ascoltando un pochino le altre radio. Quale radio? Quale radio ascolta? Radio 2. Radio 2. Nome e cognome, Radio 2. Radio 2, bene. Poi okay, lei passa poi puntualmente qui. No, è la prima volta che chiamo, lo giuro. Ah, che chiama, sì, che ascolta, no, evidentemente. Comunque, no, lui... ascolto no, assolutamente. Allora, vada. Mi piace come trasmissione la vostra. No, sentivo Dario Fo che continuava a remenarla del fatto che chi vota Berlusconi, chi vota destra, è l'Italia peggiore. Io sono un elettore di centrodestra, sì, francamente non può piene le palle. Vabbè, Dario Fo non è la prima volta che lo dice, però. Non è solo lui, è tutta una serie di altre persone. Scusa, ma tu hai visto il busto di Fini da qualche parte, non più quello di Almirante? Parenzo, hai visto il busto di Fini? Guarda, mi hanno segnalato la presenza del busto di Fini, sì, nella sede di Monti, nella sede di Monti, sì, lo stavano prendendo, lo stavano smontando e lo stanno riportando nelle catacombe, però l'hanno visto lì, adesso mi posso fare... Scusi, lei ha visto il busto di Fini da qualche parte? No, non l'hanno visto qui al PD. Non l'hanno visto lì, perché sembra che sia disperso anche quello, il busto di Fini, per carità, il busto... Mi saluta Pina Picerno. Sì, ma falla lì... Falla venire, fammi dire quanto è. Non voleva venire, però ti vuole. È tesissima, gli occhi lucidi. Te la passo. pronto, anzi pronti. Signora Picerno, come sta? È molto depressa, vero? Io vorrei coccolarla un po', non in modo molto, ovviamente, senza malizia. Però bisogna che qualcuno stasera la consoli da questa che è chiaramente una sconfitta, diciamo la verità, insomma, diciamola tutta. Beh, no? Sì, sicuramente è una sconfitta. Oh, insomma, meno male, questo abbiamo vinto. Oh, è la prima che dice esplicitamente una cosa. Cioè, si può dire che è una sconfitta anche. Sono abituata un po' a dire le cose come stanno. Insomma, si sente un po' depressa questa sera, onorevole Picerno. Molto depressa, non un po', molto depressa. Ma la colpa di chi è, secondo lei? Un po' di Bersani, il boom di Grillo, che però non avete capito. Di chi è la colpa? Guardi, non lo so di chi è la colpa, ancora presto per dirlo. Sicuramente, insomma, ci sarà bisogno di di una riflessione molto seria, perché, insomma, siamo sicuramente a quest'ora, io mi aspettavo di stare in piazza a festeggiare, ecco. Il fatto che non siamo in piazza e che non stiamo festeggiando, insomma, la dice lunga su molte cose. Certo, ecco, anche se prendete il premio di maggioranza alla Camera, anche se i sondaggi sono lì, comunque le proiezioni sono lì, non sarà questa la soddisfazione, diciamo, no? Diciamo la verità. Beh, io mi sarei aspettato un risultato nettamente diverso, sono sincera. Senta, ma Bersani, secondo adesso le faccio una domanda un po' politichese, ma insomma Bersani, dopo questo risultato che per il PD sembra una sconfitta per il partito e anche in parte per la coalizione, non dovrebbe dire vabbè mi dimetto domani mattina, o no, secondo lei? Guardi, ripeto, insomma, questo mi sembra presto valutazione. È chiaro che sarà necessaria una riflessione, ma che deve riguardare tutto il gruppo dirigente, ovviamente non solo Bersani. Riflessione. Insomma, dovremmo capire tutti che cavolo è successo in questo paese, perché insomma, mi pare chiaro che non ci avete capito niente. Mi pare, insomma, ci aspettavamo tutti quanti un risultato diverso, sono sincera, sono onesta, mi aspettavo di festeggiare. Siccome non è così, mi interrogo, ecco, siccome sì. Sono abituata. Cioè stasera lei torna a casa, torna in Campania, che fa? Invece di festeggiare Non torno a casa, sono in attesa dei risultati ovviamente definitivi, perché non c'è nulla di definitivo. Non avete smacchiato niente, questo mi sembra sicuro che non avete smacchiato nulla. Beh, questo insomma... Quello è vivo e vegeto il giaguaro, altro che ha visto che risultato che ha fatto, un leone. Anche su questo bisognerà interrogarsi un po' anche sul paese, perché insomma se gli italiani dopo tutto questo continuano a dare fiducia al centrodestra, evidentemente insomma c'è qualcosa che... Vabbè, non è che sono sbagliati gli italiani, però signora Picerno, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro, cioè siamo in democrazia, il popolo è sovrano e ci mancherebbe altro. Cioè se è vero che Berlusconi abbiamo avuto i bunga bunga e i processi e quello e quell'altro, le affermazioni più incredibili, la campagna elettorale più, da un certo punto di vista, più clamorosa, perché le promesse più pazzesche, e prende quello che ha preso, mi dica la verità, è un genio. Lo dica anche lei, signora Picerno, è un genio. No, non lo penso nella maniera più assoluta. Penso che noi non abbiamo fatto bene il nostro dovere, questo sì. Va bene, grazie. Parola a Parenzo, microfono a Parenzo, telefono a Parenzo. Stai lavorando molto bene, David, voglio fare un elogio pubblico al signor Parenzo, che fa quello che deve fare con la sua ironia, con le sue cose. E andiamo a Gianni da Reggio Emilia. Buonasera, Gianni da Reggio Emilia. Gianni, c'è o non c'è? Dica. È Reggio Calabria, ecco perché non ho Reggio Calabria. Intanto Luigi da Milano diceva che in altre radio, ma stava ascoltando prima Dario Fo, ma lo fa sempre Dario Fo, quello di dire che gli elettori del centrodestra, che Berlusconi, cioè non si ha mai rispetto per come votano gli italiani. Su, Gianni da Reggio Emilia, dica. Reggio Calabria, buonasera. Io critico fortemente questo Partito Democratico, che non ha assolutamente autocritica nei propri confronti, cioè è riuscito a farsi rimontare tutto quel distacco che inizialmente c'era. Bravo, la cosa incredibile, un punto, dalle proiezioni sembra un punto, ma vi ricordate da quando è partito? Sì, io non voglio dare la croce addosso per forza a Bersani, però insomma, secondo me, se dovessero essere confermati i risultati, altro che riflessione della Picerno, bisogna... Assolutamente. No? Un bel... Autocritica, voglio dire, è possibile non dare la colpa sempre agli elettori, agli altri, basta, voglio dire, basta. Direttore, come sta? Direttore, Fede? Ehi, carissimi amici miei, stasera non urlo. Sta godendo, sono lei? Sono buono, sono tranquillo. Sta godendo come un pazzo, diciamo la verità. Sì, devo dire la verità. Poi godere alla mia età è già un bel successo. Dato che godere in altre cose, non so se lei gode in altre cose anche. No, io godo nella cultura, godo nel fatto per la famiglia. Nel sesso gode? Come? Nel sesso gode ancora? No, nel senso che godo la vita. No, ma 81 anni, a 81 anni si può godere ancora dal punto di vista sessuale. Guarda, vergognati, a giugno sono 82. Scusami. Non diminuire l'età. Scusami, dico, scusami, hai ragione. Hai ragione, allora, ma tra l'altro voglio dire che quella sfuriata di quella sera è diventata un disco. Ma guarda, è stata una cosa, Emilio, io alla fine lo so perché ti sei sfogato, perché ti abbiamo pizzicato proprio nel momento in cui stavi leggendo quella cosa dell'Espresso, eccetera. È diventato un cult assoluto, quella roba lì. Sì, è vero. È diventato un cult assoluto. Però adesso stiamo parlando di altro, stiamo parlando delle elezioni. Quanto sei felice per questa cosa di Berlusconi, che nonostante non andrà al governo, perché non andrà al governo, anche se i dati dalla Camera non si può mai dire, però insomma ha ottenuto un grandissimo... Innanzitutto l'hai votato? Ma figurati se non votavo Berlusconi, magari in ginocchio. Ma scherzo, ma sicuramente, guarda, è partito dal 14, guarda che rimonta ha fatto da solo. Io sono felice, sai perché? Quanto stai godendo? No, dimmi, da una... no, guarda, ti giuro, felice, guarda, ho ritrovato la mia serenità e penso poi io non sono stato candidato, non sono nel mio ruolo... più tranquillo, più sereno possibile. Beh, potevi esserci anche tu in questo momento al Senato, non sarebbe stata una cosa così scandalosa, diciamo, no, tutta la verità. Posso dire molto sinceramente, finalmente così, sì. Amici, certamente, e sai perché c'è stato lo scrupolo? Lo possiamo dire adesso? Dillo, diciamo. Perché dopo l'articolo dell'Espresso, sì, al quale articolo poi ho seguito con l'incazzatura, della quale mi scuso con voi. No, ma noi non lo sapevamo. Lo so, ma lo sapevamo che non era dopo con noi. Dopo quella dell'Espresso, era d'obbligo che io ritirassi la mia candidatura. Dai, ma già era difficile per Berlusconi candidarti, dai, era difficile. Con ma tutto... certo, lo capisco perfettamente, però... voglio dire, sono però sempre... visti i risultati magari ci stava pure la presenza di Fede al Senato, diciamo la guarda, verità. Posso dire che ci stava e ci stava anche bene, però non è importante, voi sapete benissimo che quello che io ho sempre chiesto a me stesso. Ma adesso Berlusconi che può fare secondo te in questo momento, che può fare Berlusconi? Beh, Presidente spero... del Senato per esempio. Io in questo momento non lo so che può fare, so che certamente... Presidente del Senato glielo faresti fare adesso in questo momento? Ma beh, guarda, io l'ho mandato, dico la verità, gli ho mandato adesso un messaggio ad Arco dicendo sei un genio. Ah, tre volte ripetuto? Sì. Ma con messaggio come ad Arco, in che modo? Scritto una lettera, biglietto, automatico. Come una lettera? Ah, l'hai fatto portare dall'autista, che hai fatto? Sì. Vabbè, sì, tanto sì. Non è lontana lì da Colonia, no? No, assolutamente. No, ma guarda, sono molto contento, guarda, ti assicuro. Parenzo, lo senti? Beh, sentire il direttore... No, sono felice di sentire il direttore Fede così gaudente, la sua felicità è la mia gioia, quindi figuriamoci, io grande rispetto. Guarda, per il io direttore. Oggi devo dire la verità, sono stato invitato a classe TV, sì? Perché Nemo profeta in patria, nessuno si è sognato giustamente di chiamarmi là, dove io ho fondato tutta l'informazione, ma non importa. Ah, non ti hanno chiamato da Mediaset, che vergogna, che vergogna. Ma non è un problema. Però scusami, questa è veramente una cosa assurda. Tu per commentare le elezioni, questa rimonta di Berlusconi, anche se poi comunque un'affermazione al Senato a livello di seggi, alla Camera, siamo lì, cioè comunque era partito da come era partito, a Mediaset non hanno chiamato te per commentare? No, no, no. Ma perché? Ma hai pure un contratto? Hai anche un contratto? Siano quelli più bravi di me. Ma no, ma va benissimo. Ma guarda, ti pagano. Ma diglielo, mi pagate e non mi fate lavorare. Ma scusa, Emilio, no, dai. Ma io lavoro, non importa. Guarda, credetemi, io auguro a tutti, a voi soprattutto, di arrivare alla mia età come sono arrivato io. Ma quello sicuro, 82 anni. A voi anni, sicuro perché vi voglio bene, perché siete intelligenti. No, ma 82 anni, arrivare come sei arrivato non tu di testa. Non sono ancora 82, io me li esagero. Mia moglie dice perché ti alzi. Vabbè, 81, 82. Sto bene così. Però voglio dire, va bene, oggi sono stato, che tra l'altro la classe TV ci sono i miei ex Cabrini, tutti, ho visto gente giovane, in gamba, bella, perché a Mediaset che so, tutti vecchi, che so. No, che c'entra, non lo so chi c'è, perché adesso io non li ho visti, so che quelli considerati vecchi, fra virgolette, quelli che sono cresciuti con me. Qualcuno dice oggi, Nicola Porro ha scritto una cosa bella, non abbiamo parlato di Ingroia, il busto di Ingroia invece l'hai visto, Parenzo? No, sai cosa ho visto qui? Il risultato di Ingroia in Sicilia, che continuano a mandare su questo mega schermo qui al PD. Sì. In Sicilia, signor Ingroia, ha preso il 2%, amico mio, il 2, signor Ingroia, in Sicilia, il 2! Quanto sei contento che Fini non entra in Parlamento, forse? Guarda, non si da sa. da morire, mi metterei nudo sul terrazzo, ma voglio dire una cosa di onestà. Riguardo beh, mia moglie, nudo sul terrazzo sarebbe eccezionale. Senatrice, fammi dire per favore, sì, senatrice uscente, nel senso che lei ha scritto una lettera che non si candidava, ha continuato a lavorare fino all'ultimo momento facendo cene, incontri a Napoli perché potesse sostenere il Popolo della Libertà. Questa è onestà. Vabbè, è la moglie che non merito, diciamo. la verità. Poi allora Casini allora. Fini, ma va, Ingroia, ma lascia. Cioè, guarda, ti giuro, ci sono dei risultati. Vendola, scusa, avete pagato, io devo pagare 1500 euro anche voi. Vabbè, va benissimo, va bene così. C'è una. Però Vendola, sì, Vendola alla fine è uno dei grandi sconfitti, perché il dato di Selle è molto negativo. Ma Fini, quanto ti fa godere? Nudo in terrazzo, addirittura. Sì, questo. Nudo in terrazzo. E se Casini non dovesse entrare? Quello sarebbe ma guarda, Casini lo conosco quando era ragazzo, è come si dice, un bravo figlio sperso nella presunzione. Questa gente, Fine Casini, sì, dovevano ricordare, come io ricordo il mio percorso, che è anche importante in Rai, come riconoscenti, dice, devono essere riconoscenti, dice, riconoscenti tu. Ma dai, presidente della Camera uno, cioè presidente della Camera oppure l'altro, ma erano nessuno e tornano ad essere nessuno. Oddio, Casini con simpatia, perché poveretto. Ma Casini potrebbe entrare al Senato, direttore. Sì, sì. In realtà. Casini potrebbe entrare ancora. È molto in bilico. Sì, ma devono ridimensionarsi. Devono andare ad Arcore col capo cosparso di cenere. Diciamo la verità. Dovrebbero, no, ma figurati. Guarda, cioè, come dovrebbero andare ad Arcore, secondo te? In mutande. Ah, addirittura in mutande. Sì, in mutande. Dai, su. Non ci si comporta così nella vita. Guarda, io per tutta la vita sarò riconoscente a chi mi ha fatto del bene, anche se io sono un grande professionista, va bene? Cioè io sono, guarda, io ho dato la mia vita alla professione, ho rinunciato a tutto. E questa sconfitta di Monti, godi pure per quella, godi come un pazzo. Io è quello che chiamo, è il bambino che crede di essere un professore, come la Letizietto, e una donna che crede di essere una bambina. Monti, a me fa ridere. Parenzo, dove sei? Parenzo. Guarda, stavo cercando di intrufolarmi nel buffet che hanno allestito qui al primo piano per gli ma lì c'è PD. La depressione, là, Partito Democratico. Però intanto se mangia, amico mio. Francia o Spagna, purché se mangia. Ma siete nell'anticamera del Monte dei Paschi di Siena? Sì, lui, Parenzo, è l'anticamera. Però è bella, questa, è nell'anticamera del Monte dei Paschi di Siena, non è male. Ha detto se magna, deve che se magna. No, è qui in posto. Beh, abbiamo Fede in grande forma, stasera Fini e Casini dovrebbero andare in mutande ad Arcore. Dimmi la verità, allora, Fini hai detto che vai nudo in terrazzo se non entra in parame, sì. quello però rischi serio, perché Fini rischia davvero di non entrare alla Camera, Se non dovesse entrare nemmeno Casini, noi abbiamo dei dati qua, che fai se Casini non entra al Senato? Guarda, se Casino entra al Senato lo chiamo, perché gli voglio bene, me lo ricordo ragazzo quando faceva il portaborse di Forlani, quindi è lui che ha peccato di presunzione, ma Fini è, come si dice, fra virgolette, metaforicamente parlando e senza metafora, è un traditore. Lui ha tradito l'uomo che più lo ha apprezzato, portato alla seconda carica dello Stato. Ma che cacchio che vuole nella vita? Ma chi se lo puoi andare pure, chi se lo inchiappe. Cioè, oh, guardate che dobbiamo fare, c'è il disco, si balla nelle discoteche. Quale? Quello... Il nostro. Ah, il nostro, quello dell'urlo di Fede, dici? Sì. Ma l'ho visto, l'utilizzano tutti ormai, senza nemmeno citare la vera fonte di Fede che urla. Lo vogliamo rimettere qui, che stasera è euforico, il contrasto tra il Fede euforico di questa sera, per non dico il successo, ma insomma il buon risultato di Berlusconi, e il Fede alla Zanzara che urla. Siete delle merde! Hai capito? Ma com'è il rap? Ma veramente hanno fatto un rap? Sì, hanno fatto un rap, assolutamente sì. Cioè, inframmezzato da musica, c'è delle balle, perché ogni tanto mi fanno andate a fanculo e siete delle merde. Come è diventato anche, mi hanno detto all'estero, mettono quella mia frase quando io dico ma che figura di merda, ma che figura di merda. Vabbè, ma quella è una roba così piccola, ma invece il vero rap è quello che mette. Ti assicuro, dovrebbero citare Zanzara e Fede, mi va benissimo. Lo vado a trovare, Emilio, lo vado a trovare. Ciao, grazie, grazie. Grazie. Ragazzi, ciao, un abbraccio, ciao, ti voglio bene, ciao ciao. Non me moleste moschi. Beh, andiamo a trovare subito, ragazzi. Andiamo a trovare questo rap, Parenzo. Siamo diventati i re delle discoteche con rap di Fede, ma ti rendi conto o no? Allora, il grande ospite qui al mio fianco. Sì. È l'amico e compagno onorevole Orfini, che voglio scortare al TG della 7 con il signor Mentana e il signor Molino. Ma mentre lo scortiamo alla diretta della 7. Purtroppo abbiamo la pubblicità. Una domanda veloce. Però un saluto al volo a Orfini. Pronto? Oh, caro Orfini, buonasera. Buonasera. Diciamo diciamola tutta, è una sconfitta di Bersani. Qui noi non abbiamo mezze parole, non facciamo discorsi in politichese. Bersani, se dovessero essere confermate queste cose anche col premio di maggioranza alla Camera, ha perso. Su, diciamola tutta. No. Ma come no? Chi arriva primo? Se noi arriviamo primi alla Camera e al Senato, diciamo di certo non abbiamo perso. Incarico a Bersani lo stesso, con la maggioranza alla Camera, incarico a Bersani lo stesso? Beh, se c'è la maggioranza alla Camera, per forza di cose, l'incarico viene dato. Per forza di cose. Chi lo volete dare? E che ne so, ma qui al Senato è un casino. Se lei fosse Presidente della Repubblica, chi darebbe l'incarico con il centrosinistra che la maggioranza Scusi, alla Camera? Però se il PD ha una sconfitta, come sembra, come per i dati di partito, non è un bisogna riflettere anche su questo, o no? Ma si può riflettere su tutto quanto e si però l'incarico lo daremo, diciamo, purtroppo anzi per fortuna noi abbiamo una Costituzione che dice che siamo una Repubblica parlamentare. Ho la pubblicità, ho capito benissimo, ho la pubblicità, ma lei corteggerebbe i grillini al Senato? Perché sembrano, insomma, li corteggerebbe per cercare... No, ma io credo che noi dobbiamo capire se ci sono le condizioni per una maggioranza in grado di governare il paese al Senato. Vediamo i dati definitivi, adesso non si capisce ancora niente, come voi avrete detto. Se ci sono, bene, se non ci sono... Leggo che l'onorevole Concia del Partito Democratico dice: hanno preferito Razzi a me, questa è democrazia, lo dice anche con una punta di ironia, secondo me. Beh, insomma, sì, è la democrazia, se hanno preferito Razzi alla Concia è la democrazia. Non è proprio così, perché in realtà non funziona così, non è che uno di fronte all'altro in un collegio hanno preferito la Concia, non è proprio così. E comunque bisogna arrendersi, cara Concia, anche a questo, al fatto che in un'elezione può batterti, non è che bisogna per forza parlare bene italiano, no Parenzo? Dimmi, no, sono qui con l'abate d'Antonella Maddeo di UDEM. Vabbè, l'abate è preoccupatissimo, è qui che sta spippolando sul telefono. Sì, vuoi spiegare agli ascoltatori... Allora, bisogna spiegare, Tommaso Labate, la grande firma del Riformista, poi Riformista ha chiuso. Ma chi se ne frega, devi dire giornalista, punto e basta, adesso non... Il giornalista, stiamo spiegando tutta la storia di Labate. Ma non ha importanza, chi se ne frega. Però qui, allora, il clima è questo in questo momento. Regione Lombardia è sparito, Senato della Repubblica, 1,59, signori in gloria in Liguria. Vabbè, scusami. Ma sei contento, per il botto di ingloria al contrario? Posso dirti una cosa? Ho davanti a me la Moretti, che sta per andare in onda al TG1. Adesso la disturbiamo di nuovo. Pronto? Siamo Moretti? Sì. Sono Cruciani, salve. Salve Cruciani. Vogliamo cambiare un po' però il tono dello smacchiamento? Qui mi sembra che non si smacchia nulla. Qui la situazione mi sembra messa molto molto male, o no? Ma cosa vuole? Adesso a parte tutto, è presto dire quanto l'abbiamo smacchiato, se l'abbiamo smacchiato. Ma non avete smacchiato nulla, questo qua è vivo e vegeto, il giaguaro corre come un matto, ha visto che te... Beh, io direi che questo è un dato molto rilevante, cioè il fatto che nonostante tutto i disastri fatti dal governo centrale, bunga, sia ancora lì. Ho capito, ma se questo gli italiani vogliono questo, noi possiamo fare? Cioè la colpa degli italiani, dice lei? Beh, guardi che la classe politica è lo specchio del paese. Cioè, dice, quelli che votano ancora Berlusconi non hanno capito un cazzo, dice lei, no? No, perché mica devo dire questo. Aspetti che ho un collegamento col TG1, eh? Vada, TG1. Se tu metti il TG1, mi vedi adesso dietro? Ma non me ne importa niente, ti vedo io qui e non la gente che ci ascolta. Allora, puoi sentire Sabrina Viruccio, allora? No. Dell'ufficio sta... Vuoi dirla Sabrina? Ma non voglio sentire nessuno, lascia perdere. Non ti fare dire di no dalle persone, che brutto. Pasquale da Roma, 800-24-00-24. No, c'è uno della TV cinese, se vuoi. No, Pasquale da Roma, dica Pasquale. Pasquale? Signor Pasquale? Vabbè, parla o non parla sto Pasquale? Sta parlando con qualcun altro. Fabrizio da Roma, buonasera. Pronto? Fabrizio, dica. Fabrizio, vuole parlare oppure no? Che dice? Vabbè, ultime proiezioni, Senato, di seggi, centrodestra 113, centrosinistra 105, 5 Stelle 63, Monti 20, centrosinistra più Monti fanno 125, non si va da nessuna parte, 63 5 Stelle, 113 centrodestra. Dove andiamo? Fabrizio allora, Fabrizio da Roma, su. Fabrizio, pronto? Vada pronto? Però, su, veloce. Pronto, io sono Pasquale. Sì, Pasquale, va bene, dai, Pasquale da dove? Da Roma sempre. Vada. Senta, io sentirei parlare la signora Moretti, quella che ha chiamato prima, ecco, questo qua è l'effetto, questo è il risultato del centro-sinistra. Io sono un deluso del P PC, guardi, PDS. Orfini, lei è deluso e ha ragione a essere deluso. Orfini, poco fa Orfini, che entrerà in Parlamento per il Partito Democratico, espressione di quelli che vengono chiamati, la gente non capisce nulla, i giovani turchi, la gente non capisce niente di queste definizioni, comunque noi lo diciamo lo stesso, ha detto che se vincono la Camera anche di un soffio, comunque l'incarico deve andare a Bersani. Questo ha detto, ecco, l'incarico va a Bersani, questo, poi si vede. Questo è il risultato dei nostri rappresentanti politici, questo è il risultato. Io mi creda. Sì. Allora, seggi alla Camera, secondo le ultime proiezioni, che danno il vantaggio al centro-sinistra, 340, ma quello è normale perché è il 55% dei seggi assegnati. Fabrizio, ma lei per chi ha votato? Non ho capito, per il centro-sinistra? No, io all'ultimo momento, quando ho visto Bersani insieme al signor Moretti, ancora il Caimano, ancora che ha smacchiato pure lui il Giaguaro, sono arrivato al seggio, e mi creda... Ma glielo dico molto francamente, ho votato al Movimento 5 Stelle perché mi sono vergognato di votare a Bersani, ed io questa classe dirigente del nostro partito la manderei, glielo stavo dicendo alla sua, gliela manderei a casa a calci nel sedere. Anche nel culo, volendo, può dire. Anche in culo, va benissimo. Loro ci hanno portato a questa sconfitta. Sì. Perché come ha fatto Berlusconi, è ancora pensare che gli italiani sono fessi, gli italiani che ancora lo votano, senza pensare, senza fare un esame di coscienza, di dire qualcuno, cominciando da Bersani, ha sbagliato tutto nella campagna elettorale, questo qua non c'è il coraggio di dirlo, no? Hanno sbagliato gli altri che hanno votato a Berlusconi. Ha sbagliato Berlusconi, la campagna contro Berlusconi, allora, questo è il risultato. Ho capito, benissimo. Seconda proiezione Piepoli per la RAI, Camera, centrosinistra 29,2, centrodestra 28,7. Ma voi vi immaginate, tu Parenzo, immagina il distacco che c'era prima, cioè tra centrosinistra e centrodestra. Evidentemente o i sondaggisti non hanno capito, appunto, bisognerebbe dire, eliminare questo, i sondaggi, questa è la realtà. Esatto, questo è molto probabile. Però non voglio dire questo. La situazione è drammatica. Ma che drammatica, ma chi se ne frega? Adesso noi non possiamo divertirci perché sarà uno zoo continuo, un circo continuo. Ma per certo. Giornalisticamente possiamo dirci, ma il paese è drammaticamente. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Conto? Ma stai zitto, ma chi se ne porta? Ma tu hai sentito il cinese prima, la TV cinese? Che ha detto quella cinese? Che ha detto? La TV cinese, hai sentito cosa ha detto? No, giapponese, is curious. No, adesso c'è anche il cinese, adesso c'è il grande inviato della TV cinese, adesso questi di democrazia non è che ci possono insegnare granché, però rideva, c'è Bersani. Perché ride il cinese, scusa, che cazzo ride? Allora, Camera 29,2, centrosinistra, centrodestra 28,7, 5 Stelle 26,1, Monti 10,8, Civile, Rivoluzione Civile 2,4, altre liste 2,8, forse Fini potrebbe addirittura farcela con questo risultato. Bisogna vedere il singolo, cioè se superano il 10% potrebbe addirittura farcela entrare alla Camera, solo Fini. Il nostro amico Bocchino non lo so. Mauro da Padova, buonasera. Tanto c'è Chitto al TG1, vediamo se Chitto si incalza pure col TG1. Del PD, se quel dato fosse confermato si va al voto, si cerca un'intesa? Ma in primo luogo vediamo che il PD è in preda ad una crisi di nervi, perché era sicuro di vincere e invece gli elettori lo hanno smentito, e il PDL ha dimostrato di essere in campo con tutta la sua forza. Si è arrivati al punto... Beh, a toni un po' diversi, sentiamolo prima alla 7 cosa diceva in apertura di serata, diciamo, no? Alla 7, stupendo, alla 7 contro i giornalisti, sentiamo. Ci avete bombardato per giorni dicendo che eravamo sconfitti, brutti, sporchi e cattivi, dovete un po' rivedere qualche giudizio. E poi meraviglioso duello con Bianca Berlinguer a TG3. Va bene, Mauro da Padova, buonasera Mauro. Buonasera. Sì. Se non riescono a prendere la maggioranza al Senato, siamo proprio nella merda. Ma chi? Tutti. La maggioranza non ce l'ha nessuno al Senato, è quasi matematico ormai. Appunto, ormai siamo nella merda perché le aziende... Saremo nella merda, quello è un problema per altre persone, del Presidente della Repubblica, per altre eccetera. Persone. Cruciani, vediamo domani la borsa, vediamo i mercati, eccetera. Cruciani, le aziende non ce la fanno a resistere altri 6 mesi così, Ho capito, amici miei, ognuno ha il destino nelle sue mani, no? Il voto no, nelle sue mani. Mi dà fastidio perché Bersani è stato proprio un ottuso, veramente un ottuso. Si dovrebbe dimettere domani. Perché dice lei, con Renzi era un'altra storia, no? Ma sì, io sono tra quel 1,5 milioni, ci sono andati 3 milioni a votare con Renzi e 1,5 milioni sono andati a votare per le primarie, per l'elezione dei rappresentanti. Quel 1,5 milioni, tra cui io, non ho votato per il PD. No, no, ma no, certo, ma non c'è dubbio, ma il problema è quello che questo dato del PD del 26%, quello che sarà, è uguale dal 2009 in poi, non c'è stato nessun allargamento. Ma sì, ma continuano sempre con... Dai, ma ancora con Moretti sul palco. Moretti, ma lei dai, su, ma con le solite Moretti, banalità poi, su Berlusconi, dai, siamo ma seri. Guardi, ma poi ci metta Travaglio, ci metta... Santoro che portano Iella, no? No, beh, Santoro che porta Iella adesso non credo, no, proprio che porti, guardi, Iella Santoro. Proprio l'ottusità ha un'altra, ma lei cosa ha votato alla fine, signor Mauro? Guardi, non glielo dico cosa ha votato. No, come non lo dice? Scusi, lo posso dire io, ho fatto pure un'intervista per dirlo. No, non ha importanza quello che ho votato io, non ho votato il PD che votavano. No, lei ha votato Grillo. Lei ha votato Grillo. No, non ho votato Grillo. E non ho votato il PD, ma veramente non so. Giannino. Volevo votarlo Giannino perché poi lo volevo votare perché se per me è una brava persona e se è così preparato è perché non è andato a Chicago, perché se andava a Chicago si rovinava. Questa non è male, grazie, grazie Mauro, grazie. Beh, danzano come zanzare. Davide da Monza, buonasera, fra poco altri ospiti, sono passati tutti, soprattutto abbiamo certificato la depressione del Partito Democratico, ma sentiamo il signor Marazziti della comunità di Sant'Egidio, la lista Monti, che dice di essere contento, questa è una cosa pazzesca. 4 settimane è successo quello che quasi mai è accaduto nella storia d'Italia, quindi chi diceva che non che si raggiungeva il quorum, storia d'Italia? Penso che sarà un po' sorpreso. Ma non è vero, il problema non era il raggiungimento del quorum. Allora, vabbè, lo dicevamo prima, una giornata Davide, dica. Con... Buonasera a tutti. Io volevo ringraziare queste elezioni perché mi hanno aiutato nella scelta che mi ero prefisso di fare prima delle elezioni, cioè a dire che se non ci fosse stata una maggioranza definita, definitivamente avrei deciso di trasferirmi all'estero. E questa volta lo faccio veramente perché... Ma che vuol dire trasferirsi all'estero? Ma questa è veramente una stupidaggine. Ma cosa significa mi trasferisco all'estero? Ma lei che lavoro fa? Scusi Davide, che lavoro fa? Allora, io intanto lavoro nel campo musicale come autore. Dunque se lo può permettere, diciamo, può fare quello che vuole, anche a Barcellona o a New York. No, andrei o in Cina o a Miami, uno dei due, perché sono due posti dove ho già dei tour fissati, quindi sceglierei uno o l'altro. Le dico anche perché... Perché, come lei sa, in Italia la SIAE funziona solo così, nel nostro paese, nel resto del mondo non esiste, ed è molto politicizzata anche la SIAE, per cui non avendo preso una decisione... Ma non chi c'è se ne frega sulla SIAE, Davide? Stiamo parlando dei risultati elettorali, ma guardi, non voglio parlare della SIAE. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, Lorenzo, ci sei? Sì, certo, sono qui e Bersani ancora non si vede. Ma è normale che non si vede. Intanto Ingroia fuori dal Parlamento dice contro Bersani ha consegnato il paese all'ingovernabilità. Ingroia, dopo un risultato del genere, uno almeno dovrebbe stare zitto, non è che è colpa di Bersani. Adesso Ingroia dà la colpa a Bersani, cioè lui, lui prende 1,5 e si cazza pure con Bersani. Ah, guarda che è un bel personaggio questo signore. No, più dell'1,5, più dell'1,5. Però, in Sicilia ha preso il 2, ti rendi conto? Vabbè, è andato male, diciamo la verità. Davide se ne voleva andare dall'Italia? Davide? Non c'è più. Elena, provincia di Arezzo. Elena? Salve, buonasera, eccomi. Vada. Allora? Allora, io sono 20 anni che cerco di essere di sinistra, ma non ce la faccio. In che senso cerca di essere di sinistra? Ah. Perché sì, perché non mi sento di destra, ma sono 20 anni che la sinistra fa autogol, uno dietro l'altro. Vabbè, può essere, sono sì. Andata alle primarie. Può essere, sì, può essere che così. Anche sono questa... andata alle primarie, sì. Votando Renzi. Ero contenta di queste primarie, finalmente, perché ero stupita di come mai gli italiani non scendevano in piazza ormai da qualche anno. E mi sembrava invece che quello fosse... il modo degli italiani di scendere in piazza si era creato. Ho capito, però scusi un attimo, prego. Non è che doveva vincere per forza Renzi, ha vinto Bersani. No, ci mancherebbe. Ed evidentemente Bersani non è stato in grado di allargare l'elettorato del Partito Democratico, diciamola tutta. No, ha vinto Bersani perché nuovamente ha parlato. Cioè, ragazzi, ma Berlusconi ha vinto. Berlusconi ha vinto nonostante il fatto, o forse grazie al fatto che, per esempio, il giorno del silenzio elettorale ha vinto, insomma, ha vinto, ha ottenuto un grande risultato. Vinto no. Perché il giorno dell'uscita del silenzio elettorale se ne è uscito con frasi di questo tipo, cioè che i giudici sono peggio della mafia. Parenzo, ti rendi conto o no? Cioè, ha detto una frase talmente grave, eppure è proprio grazie a queste uscite, a questa campagna elettorale, all'attacco che ha vinto. Sentitelo all'uscita dal seggio, insomma, rompendo il silenzio elettorale alla conferenza stampa del Milan, non mi ricordo. Hanno fatto 150.000 intercettazioni telefoniche, non è venuto fuori un reato. E continuano con i processi che sono stati ripresi da tutti i giornali stranieri, dove la magistratura è una cosa seria, mentre da noi è una mafia più pericolosa della mafia siciliana. E lo dico sapendo di dire una cosa grossa, importante, ma avendo conosciuto tutto, è così. Hai capito? Poi, ho capito perfettamente. Ma al mio fianco c'è un grandissimo ospite. Chi è? Che è un collega della TV cinese. Sì. Vero? TV cinese? Lei, TV cinese. TV cinese lei, vero? Sì, ma che cos'ha? Questa è la Zanzara, collega cinese. Come vede Bersani in cinese, come si dice? Non possono parlare perché hanno... Non si può parlare in Cina? In Cina? Come vedono le elezioni italiane, comunista, come Bersani? Come vedete le elezioni italiane dalla Cina? Bersani è comunista, chiedilo. Non possiamo rispondere. Aspetta, come dice, non potete rispondere? Perché no? In Cina c'è silenzio stampa, No, non è così. Problemi di democrazia anche lì, No. Sì, qualche problemino c'è lì. Di un po' se sono contenti. Se... Parliamo solo e lavoriamo solo della nostra televisione, non della vostra. Sì, però lì in Cina qualche problemino di informazione c'è. Niente, mi allontanano. Ti allontanano, no? Beh, cinesi. Allora non capisco perché. Io compagni, chiedi se i compagni cinesi sono contenti del risultato del compagno Bersani. Ma non mi vuole. Aspetta, vediamo. Allora, diciamo. Sì, ma siamo in Italia, non in Cina. Di Bersani o no? In Cina. Che dice? Come? No, ma educazione, una domanda solo. Ma per siamo la Cina. In Italia, non siamo in Cina, chiedi, dillo, scusi, siamo in Italia. Non è... Sto facendo la diretta radio per la Zanzara, amico. Sì, ma non siamo. Ma non neanche... Vuoi spiegare che non siamo in Cina? Si può anche salutare tranquillamente, dire buonasera dalla Cina. Niente, scappa via perché dice che. Sì, ma devi spiegare ai signori cinesi. I cinesi non parlano. Ho capito, ma non siamo in Cina, siamo in Italia qui. C'è la democrazia. Esiste democracy. Vabbè, traffico, dai, traffico. This is democracy. Traffico. Scusi, io ho capito l'italiano. Vuoi parlare italiano, bene. E allora perché non dice qualcosa su Bersani? Allora, per farci un commento sulle elezioni, come la Cina vede l'Italia di Bersani oggi? Prima mi dovrebbe chiedere, liberatorio? No, liberatorio. No, liberatorio. Le scartoffie. Allora tu non posso fare... Ma mica in Cina, non capisco io. Dai, liberatorio prima. Liberatorio. Ma che liberatorio? Ma non siamo in Cina, qui siamo in Italia, democracy, parlare... Cinese vuole la liberatoria, hai capito? Mica la liberatoria! Parlano come se fossero in democrazia loro! No, traffico! Una cosa pazzesca! Traffico! Strade in diretta. Buonasera, il maltempo condiziona gli spostamenti in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno. Per grandine è stato chiuso il tratto compreso tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno nelle due direzioni e all'interno del tratto chiuso si è verificato anche un incidente, il traffico è bloccato. In prossimità delle uscite obbligatorie si sono formate di conseguenza code a partire da San Miniato verso Livorno e da Ponte de Raest in direzione di Firenze. Ci spostiamo sull'Autosole, 3 km di coda in direzione Bologna tra Barberino di Mugello e Roncobilaccio per un camion fermo in prima corsia nella galleria Sette Fonti e appena rimosso. Ed è tutto per ora, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. La Zanzara. Non mi moleste moschito. Intanto Tremonti non si è regalato un sogno, Ha chiesto agli italiani regalatemi un sogno, Monti sotto il 10%, ma mi sa che Monti per un soffio ce la fa, la coalizione sopra il 10%. Poi bisogna vedere Fini, il risultato del signor Fini. Così pare 10% per Monti. Non è proprio un disastro totale. Uno ha detto disastro, è l'irrilevanza per adesso, però non è proprio un disastro totale. Cioè era un disastro totale che se era sotto il 10. In questo caso una roba così, una roba abborracciata, una roba modesta, però non qui siamo è al bivacco, Ah, dice al PD, al Divacco. Ma no, non si dovevano vedere. Totale, ci, dove, una... ci devono essere le feste in piazza, niente, eh? Feste, nessuna no, festa. No, no, no, guarda, c'è un bivacco totale. Ad esempio, qui c'è. Che stai mangiando te? Io? Sì, pizza margherita. Pizza margherita. Ma chi è un militante? Chi è un militante? No, no, un militante, uno dei tecnici della, della 7. Questa è la pizza margherita, è buona. Ma non me ne frega niente, ma chiama un coso, ma vai a però, prendere un militante. Ah, c'è, no, un militante, c'ho un candidato alla Camera, Khalid Shawki, che ha una islamica. Liberale, libertario, sì. Che ha la faccia, è uno dei giovani cagnati del Partito Democratico. Sì. La faccia pulita con la schiena diritta. Ma uno che schiena che, diritta? È, ma che cazzo stai dicendo? L'Islam più bello, l'Islam migliore. Khalid Shawki in diretta alla Zanzara. Khalid Shawki, te lo passo. Signor Shawki, lei è depresso? No, depresso no, sicuramente potrei essere molto più felice. Ma scusi, ma lei entra in Parlamento sicuramente? Dobbiamo vincere la Camera, aspettiamo. Se vinciosi questo. Ah, lei questo non, è uno di quelli, non è uno di quelli sicuri a prescindere, lei? No, no, a prescindere no, aspettiamo, dipenderà dal premio di maggioranza, anche se appunto sono. Però insomma è un disastro comunque, mi dica la verità, c'è un risultato molto molto deludente. Lei mi dica, dentro di sé è un po' depresso? Depresso no, sono scontento e deluso. Doveva, ecco, essere in piazza, sì. No? Doveva stare in piazza a festeggiare il trionfo, eccetera, invece sta lì a vedere questi dati della Camera, cosa che non era in dubbio. Ma lei, scusi signor Shawki, lei che è una persona intelligente, ma alla Camera avevate un sacco di punti di vantaggio, raccontavano balle i sondaggi, qui siete a un punto di vantaggio nelle ultime proiezioni, un punto, 0,8, ve la battete? Vabbè, aspettiamo ancora. Aspettiamo, bisogna aspettare. Il Senato è andato, mi sembra, il Senato è andato. Il Senato è andato e aspetteremo appunto dal nostro segretario la risposta. Ma che non deve fare un esame di coscienza al suo segretario, magari pensare a qualche dimissioncino, e quindi dai, non si dimette nessuno. Questa, cioè, è chiaro che poi alla Camera prende il premio di maggioranza. Io penso che il Partito Democratico con la guida di Bersani ha fatto tutto il possibile. Ma come tutto il possibile? Il problema è stato ovviamente probabilmente un voto di protesta molto forte e invece sì, sicolmente. Perché non l'avete intercettata voi? Perché non l'avete intercettata voi questa protesta, signor Shawki? No, su questo infatti se devo fare un esame di coscienza devo dire che noi su alcune battaglie dovevamo essere molto più incisivi e per quello che mi riguarda... Se mi dica la verità, con Renzi alla guida non ci sarebbe stata partita, me lo dica subito, signor Shawki. Si può dire chiaramente, ma io no? con i se non si fa nulla, noi abbiamo deciso insieme che la guida aspettava Bersani, io vabbè, mi fido della guida di Bersani e devo dire che il fatto non è Renzi o Bersani, ma il problema è che c'è oggi un movimento come quello di Beppe Grillo che forse andava appunto andavano comprese quelle ragioni, ci doveva essere una campagna elettorale dal nostro punto di vista molto più incisiva. Va sul bene. Appunto su quelle che sono grazie, le cose che grazie, sappiamo tutti. Grazie. Vittorio, come stai? Bene, di ottimo umore. Ma scusa, ma in tutto questo successo, alla fine comunque sarà un successo di Berlusconi, diciamola tutta. Sì, comunque sì. La si mette, eccetera. Ma è possibile che tu ancora una volta stai fuori dal Parlamento? Io non me ne faccio una ragione. Cioè, ancora una volta, ma bastava una candidatura da qualche parte e facevi il cinema in Parlamento, al Senato, alla Camera, avevamo qualche mese di cinema assoluto. Vittorio. Ma sai, non è ancora finito il turno. Chi è che non t'ha voluto? No, nessuno, io non ho chiesto niente a nessuno. Non... Vabbè. Berlusconi, per la verità, mi ha dato un seggio e in una lunga conversazione notturna mi ha detto se ne occuperà Verdini e si è visto come se ne è occupato. Appunto. Quindi io non ho chiesto niente a Verdini, non gli ho mai parlato, però d'altra parte io avevo avuto i miei fallimenti che erano le azioni che avevo condotto con Samorì e con Intesa Popolare. Ma come sta andando Samorì? È allo 0-2, che mi pare anche molto ottimistico. 0-2, Samorì, Parenzo! 0-2 per chi chiama fuori Roma, no? Fa 0-2, chi fa Milano fa lo 0-2. Ma dai, su, ma di che parliamo? Lo 0-2, pure Samorì ha speso pure un sacco di soldi. Appunto, scusa, Vittorio, ma dimmi quanto godi se Fini non entra in Parlamento, signor Fini. Beh, io spererei che non entrasse neanche Casini. No, quello mi sembra difficile, perché al Senato si è messo bene in qualche regione lui. Sì, si è messo in qualche regione. Speriamo che non passino però... alla Camera il 4%, il 10% e no, quello mi sa che lo, mi sa, ma quanto godi se non, è, se, non è, se non entra Fini, quanto godi? Beh, mi sembra assolutamente naturale, perché uno che aveva tutti i voti a destra e non ne ha più uno non può pensare che gli arrivino dei voti da sinistra, perché la sinistra avrà molte altre cose da fare che non votare lui. Beh, certo, no? Assolutamente. Senti, Ingroia fuori, ma è questo pure per te uno Ingroia, spettacolo. Quella è la massima soddisfazione, sì, quello. Io certo. È con lui di Pietro, tutti questi. Stasera quasi da masturbazione, banda. Quasi da masturbazione stasera, questa. Beh, roba. Insomma, tutto quello che io speravo. Nel senso che io ho pensato e mi sono augurato la vittoria, sì, di Berlusconi, per il solo piacere di vedere le facce di Bersani, di Vendola, di Ingroia, però insomma mi basta che il pareggio per il divertimento, insomma, per il compiacimento della loro delusione. Ecco, ma Ingroia fuori, che già, con le, già ti dico che qualcuno scrive pronte le valigie per il Guatemala, chissà se ha disfatto, sì, letto. Chissà se ha disfatto le valigie per il Guatemala, insomma... È una roba. Il problema è che lui sostiene di dover continuare l'impresa politica, sarà difficile poterla fare se continua a fare il magistrato. Comunque, secondo me ha ragione Porro, Parenzo. Porro ha scritto: meglio Ingroia in Parlamento che in aula giudiziaria. Peccato, cioè fa più danni forse in un'aula giudiziaria che in Parlamento, secondo i Porro. Non confondiamo i piani. Che dici? Quando io discutevo, sì, Ingroia, voi eravate totalmente dalla sua parte. No, è Parenzo, Parenzo era dalla sua parte, io mai. Io credo che Napolitano avrebbe fatto benissimo a rivelare il contenuto di quelle intercettazioni, però c'è una ragione per cui non poteva essere rivelato, che è questa. Sì. I due, per come io li conosco, sì, sono persone anche molto umorali, soprattutto Napolitano. Sì. Non hanno parlato di spostare il processo, di affidarlo a Grasso, che tra l'altro poi è diventato, sì, oggi sarà diventato deputato del PD, ma sì, hanno detto che Ingroia, sì, è uno stronzo, è un cornuto, e a quel punto che il presidente dica delle parolacce è una cosa talmente inaccettabile nel suo stile. Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto queste cose qua? Scusa. Sono assolutamente sicuro che la imputabilità delle intercettazioni è relativa a delle parolacce. Cioè, un fatto che tu non puoi, un uomo. Ma questo così, lo sai perché sei certo? Sei certo? Sono assolutamente certo che dentro il contenuto delle cose sono degli insulti a Ingroia. Infatti, a Ingroia, o delle valutazioni negative sulla sua attività, che erano ovviamente improponibili. Questa è la ragione, non riguardavano la materia del processo, riguardavano, ma guarda quello stronzo, quella bestia, quell'incapace, quella capra, chissà cosa avranno detto. Sì. Questa è la ragione, per cui è chiaro che a questo punto siamo di fronte a una situazione difficilmente misurabile nei termini. Senti, ma invece Bersani, un altro grande sconfitto è Bersani. Ma dico... Perché Bersani, io sono l'unico ad aver detto che c'era un'ombra di possibilità di vittoria del Berlusconi, per questa ragione, perché la maggioranza silenziosa che quando eravamo ragazzi faceva sempre vincere l'ABC, sì, era quella per cui tutti dichiarano voto Ingroia, voto Grillo, tutti quelli a cui tu intervisti per strada. Chi vota Berlusconi si vergogna, non lo dice, e quindi sì, non lo dice, ma lo fa. E allora all'ultimo momento vota una cosa che è quella che gli fa minore. Ma scusa, danno. Ma se uno fosse in questo momento il segretario del PD, in cui non c'è la maggioranza al Senato, arriverà forse la maggioranza alla Camera, ma col PD che perde voti, che deve fare? Via subito, no? Si dovrebbe dimettere, ma soprattutto la ragione per cui non poteva avere consenso è che, avendo fatto quell'azione criminale contro Renzi, perché se avessero fatto votare tutti con la carta d'identità senza fare iscrizioni online e altre balle, sì, che rendevano tutto complicato e inutilmente faticoso, il ragionamento sarebbe stato molto diverso. E quindi con è andato Renzi, in questo modo perché loro hanno voluto perdere in quel modo, e nel momento in cui tu vai a chiedere voti devi fare delle promesse, devi dire delle cose, per cui Berlusconi ha scelto la consueta strada che ha avuto un buon successo, ma uno perché deve votare Bersani o Monti? Per dire il martello ai coglioni? Cioè, quelli che hanno votato Bersani o Monti quale speranza potevano avere se non di essere persone di un apparato, in questo caso per Bersani, o di non so quale perbenismo per Monti. Vabbè, comunque tu sei stato uno di quelli che sparava zero pure su Grillo, in realtà Grillo ha trionfato. Qui siamo... Ma Grillo non è un problema reale, è un problema molto semplice. Grillo è la coperta che dà un nome a quelli che non sarebbero andati a votare, quindi va benissimo. Ecco, quindi diventano consistenti i voti. Quando tu hai, non so, il 30% di quelli che non votano, quel partito del 30% finalmente ha un nome. Però qui, dici sarà irrilevante, sarà comunque irrilevante, dici? No, può darsi che sarà sicuramente dal punto di vista della preparazione, è inutile pensare che facciano dei corsi perché non possono essere più impreparati di quelli che ha messo in Parlamento Berlusconi. Con quello che abbiamo visto, quello sicuro. Può, quello sicuro. Quindi non questo è un problema. Però dico, il problema non è che siano più o meno preparati a fare i parlamentari. Il problema è che sono finalmente il nome che si dà al non voto, ho o capito, al voto di protesta. Va bene, comunque bisogna consolare Parenzo, perché il PD non è andato troppo bene. Vittorio, consoliamolo un po'. Consoliamo. No, ma Parenzo lo teniamo sempre con noi, anche perché adesso ci sarà per lui un futuro. Cioè tra dove? Tra qualche giorno gli darò delle possibilità. Sai Saviano che cosa ha scritto, Saviano? Cosa ha scritto? In apertura di giornata, pensa che cosa aveva scritto. Pensa che cosa aveva scritto. Dov'è? Ditemi un po' il tweet di Saviano. Il tweet di Saviano, dite... Ah sì, per ora prevale la certezza. 4 ore fa, Berlusconi è stato sconfitto. Voglio godermelo un po'. Ma ti rendi conto o no? Non capisco, perché poi... Cioè, per ora prevale la certezza che Berlusconi è stato sconfitto. Signor Saviano, ma quale sconfitto? Quale sconfitto? Ha più senatori di tutti. Sconfitto de che? Dove sconfitto? Ma non capisco. Ma perché c'è questa incapacità? Questa ossessione? Ma pensate a vincere bene, no? Pensate a vincere bene. È un mondo di pazzi. Hanno creato Berlusconi e non possono più farne a meno. Arrendetevi! Arrendetevi! Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili! No, tanto per chiarire alcune cose, mi ha colpito domenica un Twitter di Ingroia, anzi no, di De Magistris, grande sostenitore di Ingroia, che diciamo la verità è uno dei più grandi fallimenti di questa tornata elettorale. In questo momento è il 2,25 alla Camera, in questo momento oltre metà dello spoglio ufficiale, 2,25. E De Magistris su Twitter, sentite questa: da visionario penso che la fase più avanzata della democrazia sia l'anarchia, sogno una comunità che si autogestiscano senza poteri, solo amore. Ma l'hai ascoltato bene o no? No, ma scusa, questo qui lui ha fatto anche il magistrato, no? Sì, da visionario penso che la fase più avanzata della democrazia sia l'anarchia. Ma come l'anarchia? Sogno comunità che si autogestiscano senza poteri, solo amore. Mandagli un l'amore solo. Solo l'amore, senza poteri, solo amore. Ma come l'amore? Ma come solo l'amore? Ma di che parliamo, signor De Magistris? Ma tu ti rendi conto o no? Allora, situazione di Monti, che è quella che interessa un po' di gente, eh. Ah, mi portate un goccio di champagne per cortesia, pronto? Allora, Monti, camera, per adesso dati scrutinati siamo al 10,49, dunque supera il 10%, però attenzione, all'interno c'è Scelta Civica 8,43, l'UDC 1,61, dunque sotto il 2%, entra come primo partito, sotto il 2%, Futura e Libertà 0,44, cioè Fini prende per adesso 84.344 voti, ne piglierà di più perché siamo... Cioè, tu ti rendi conto o no? Comunque una Fini... debacle pazzesca, ma io se vuoi ho qui al mio fianco una giornalista di UDEM che voleva farti un'analisi ficcantissima dal punto di vista politico. Ma UDEM è la televisione del Partito Democratico, sì. Sì, televisione del Partito Democratico. Sì, come si chiama lei? Antonella Amadeo. Ah, la signora Amadeo che ha seguito il signor Renzi. Il signor Renzi. Allora, lei, se si vuole esporre, ci deve dire una sola cosa. Tutte le altre cose interessano poco. È vero o no che con Renzi era un'altra storia? Mi dica la verità, signor Amadeo. No, ma non esiste questa analisi. Non esiste questa analisi. Cioè, che sono state le primarie che hanno scelto Bersani Premier, appunto. Ma quello lo sappiamo. Questa, però non ce n'è un'altra. Lei che ha seguito Renzi ed era nella staff di Renzi, me lo ricordo bene, sì, può dire questa cosa. Cioè, con Matteo, insomma, vincevamo alla grande, o no? No, io questa cosa non la dico assolutamente. Non la vuole dire, ma la pensa nessuno di noi. Lo pensa, lei lo pensa ma non lo vuole dire, questa è la realtà. Lei lo pensa ma non lo vuole. Io lo capisco, per carità, però lei lo pensa no, ma non lo vuole. Assolutamente. Comunque è anche presto per commentare, perché aspettiamo. Ma è depressa o no lei? Quanto è depressa? Aspettiamo. No, vabbè. È depressa, su, è depressa. Cioè, vabbè, comunque, cioè, scusatemi, adesso non è chiuso niente, si sapeva benissimo che al Senato non avremmo vinto, no? Ma non è vero, ma quando mai? Quindi, che si sapeva? Qual è la novità? Lo sapevamo tutti che al Senato non sarebbe stata ma signora Amadeo, non dica così, non è vero che si sapeva. Se tutti quanti, se voi dicevate almeno i vostri dirigenti al Senato avremo una maggioranza sicuro, PD SEL, su, dai. Vabbè, comunque che dici? Che l'ha sentito Renzi in queste ore? Signor Renzi? Sì, l'ho sentito. Oh, interessante. Che... Vabbè, niente, stava ovviamente... Felice come una Pasqua, felice come una non Pasqua. Non è vero, assolutamente. Ma come assolutamente, no, è felice come... Ma anche no, lei è felice. Assolutamente, lui stava aspettando sì. i risultati ma no, ma che cosa come gli altri, come ovviamente gli altri. Partecipe delle sorti del PD, perché lui è del PD e ci teneva al fatto che il PD facesse un buon risultato. Lei è felice, che lei è felice come una Pasqua, io lo so che lei è felice. No, assolutamente. Grazie, vabbè, a presto. Io grazie, ciao. Ma era, scusami, era la Dominus assoluta del camper di Renzi, non l'hai riconosciuta? È Dominus assoluta, sì, lo so chi è, ma non ne parliamo, Dominus assoluta, era lo staff di Renzi. Era una delle persone più vicine a Renzi, felice. Che ora è uno dei veri vincitori paradossalmente di tutta questa. Ma non questa, lo vuole dire la signora Amadeo, su, Fabio da Casetta, non chi lo abbiamo? Vuole dire perché, non è che deve dire lei la sentiamo? Cioè, deve dire. Ma perché uno, non è che se lavora per UDEM non può dire che, no. che la televisione del Partito Democratico che è una sconfitta di Bersani, perché è una sconfitta di Bersani, diciamola tutta, bisogna dire le cose come stanno. Sta parlando Alfano che dice... La cosa più in voga in questo momento è Ruzle, cioè la concentrazione non è più sui dati, ma su Ruzle, questo gioco. Si chiama Razzle, pazza. Poi comunque lasciamo perdere. Razzo, comunque lasciamo perdere. Vabbè, però si scrive Ruzle, no? Sì, beh, ho capito, sì, però la scrittura e la dicitura sono due cose diverse. Ah, non lo sapevo questo. Fabio da Caserta. Ma è ancora la TV cinese? No, la TV cinese no, se li mettiamo nei guai, li rimpatriano subito domani. Ma non faccio il cretino. Signor Almirante potrebbe, però mi sa che è andata male per Storace nel Lazio, la signora Almirante. Sembra non faccia lei, io do una bastonata in testa. Glielo dico che se lo vedo gli do una bastonata in testa, questo io. Per Storace non sembra andata benissimo, siamo ancora agli exit poll, per carità, domani ci saranno i risultati. Fabio da Caserta, su, dai. Sì, pronto, ciao Leonardo. Sì, Leonardo sì, chi? Io, scusa. Guarda, io... vabbè, ti do del tu. Ma Leonardo che c'entra, Leonardo? Non c'è Leonardo. Ma quale Leonardo de che? Mi chiamo Giuseppe, al limite. Ah, ciao Giuseppe. Ma lei pensa di parlare con chi, scusi, Fabio? Con Radio Bubù? No, Radio La Zanzara. Sì, Giuseppe allora, Cruciani e David Parenzo. Con chi vuole parlare lei? Io con tutte e due. Con tutte allora, e due, bene, io dica. È semplicemente uno sfogo per dire che noi come popolo italiano ci meritiamo quello che è successo, perché oramai non si ragiona più quando si va a votare. Non dica troppe stronzate però, No, vabbè, io voglio solamente dire che la gente ha creduto a tutte le stronzate che ha detto un uomo per vent'anni. Berlusconi, sì. Un uomo che ha legalizzato il falso in bilancio, ha fatto la legge Cirielli, lo scudo fiscale, tantissimo si è arricchito, insomma, con tutta la sua famiglia, e la gente continua a votarlo. Io, sinceramente, a 30 anni sono disoccupato e sono purtroppo d'accordo con lo spettatore che ha chiamato prima, che dice che lui è espatria. Ci tocca espatriare perché se ne vada pure, ma chi se ne frega, Fabio, se ne andasse pure all'estero. Grazie. Ma chi se ne frega, cioè, Fabio, se lei pensa che il problema sono gli elettori di Berlusconi che gli danno ancora fiducia, se ne vada all'estero. Non sarà una... Parenzo, diciamo pure la verità, non sarà una grande mancanza quella del signor Fabio da Caserta, o sbaglio? No, ce ne faremo una ragione. Ce ne faremo una ragione, dai, su. Ce ne facciamo una ragione, signor Fabio, se lei va all'estero. Io, vabbè, no, è il senso per dire, io non lo so, non voglio essere di parte. No! Un'alternativa non c'è ed è giusto, insomma, che la gente voti una persona che promette il rimborso dell'IMU, quindi, cioè, però non è normale in un paese europeo nel 2013, capito? Sì, vabbè, se non facciamo i discorsi non sarà normale, è normale così. Questo è. Giorgio Bracardi, buonasera! Ciao bello, come va? Come va, signor Bracardi, lei è numero bene, uno. Bene. No, è che signor Bracardi, chiamami Giorgio. Giorgio, che ha votato? Che hai votato, Giorgio? Che no, hai votato? Io ho votato Grillo, ma è scontato, dai. Forza. Come è scontato? Ma si può andare avanti così, si poteva andare avanti così. Cioè, meno male, ma io dico, per me è stata una sorpresa, perché vabbè, tutti conosciamo Peppe, che è una persona meravigliosa, grandissimo comico, eccetera, eccetera. Ma che hai fatto? Sei entrato al seggio e hai fatto pure una pernacchia, magari, no? No, ma no, l'ultima persona a cui, ma figurati, Grillo è un grandissimo, un grande, e lo dobbiamo ringraziare tutti, noi italiani. Perché? Lo dovremmo ringraziare. Perché? Anche ma perché? Perché lui è stato Grimaldello che chiamiamolo il Manganello, parafrasando. Manganello, perché, facciamo il Manganello. Che sì. Manganello che capito che ho capito, Giorgio, ma qui adesso chi governa qui? Ma amore mio, tanto e che famo? Ci facciamo la testa prima, ma roba da matti, ma ragazzi, ma insomma, volete continuare col Monte dei Paschi, con le cosche che rubano, che oramai siamo invasi da mafia, andrangheta, ma quanto volete andare avanti? Ma scusa, io dico, ma guarda la Madonna, ma da Mani Pulite, sì, no? Sì, ti ricordi Mani Pulite? Sì, come no? Sì, ma cosa è cambiato? E che ne Italia. So, boh, ma sempre i soliti perché non hai votato Bersani? Perché non hai votato Bersani? Ma perché devo vorrebbe? E che ne so? Ma scusa, ma Bersani loro, ma scusa, ma la faccenda del Monte dei Paschi che non è della sinistra. De Bersani, dici, no. Della sinistra. Comunque, comunque che ci fa Grillo con tutti sti deputati adesso se non può governare? Ma chi l'ha sono lì a rompere i coglioni, secondo me devono andare lì a rompere i coglioni. Io ho capito che tu sei di sinistra. Io ho votato Grillo, ho votato Grillo come te, allora, Camera e Senato. Allora stai a fare l'avvocato del diavolo. Per forza. Allora, io ho votato Grillo, lo sai perché ho votato Grillo io, Giorgio? Noi italiani dobbiamo essere orgogliosi di aver avuto finalmente un italiano che è ricco di suo, no? Che ha tutto da perdere e niente da guadagnare, non è un politico, ma si è trasformato in un abilissimo politico e che se domani l'Italia esce da questa immonda, schifosissima palude che è la politica italiana, è merito suo, dici? È merito suo? È certo che è merito suo. Certo. Senti, ma sei arrivato lì al seggio, avrei fatto qualche cosa tua da cinema assoluto? No, hai fatto niente, Gio? La cosa è troppo seria, non si può scherzare. Aspetta un attimo che c'è il traffico. Felicissimo, l'avrei incontrato, sarei stato felice. Però Peppe ha tutta la mia stima, sono felicissimo. Sei un fan sfegatato. Io sono stronzo, testa di cazzo. Io vado a zonzo come uno stronzo. Felicità, mi sono rotto i coglioni della vita, mi embriaco per trovare la via d'uscita. Ti sei ubriacato, Giorgio? Sì, io non bevo, però stasera una bella bottiglia di vino l'ho aperta per brindare a grande Peppe. Ma scusami, ma Berlusconi che piglia ancora tutti sti voti, come lo giudichi? Amore mio, sai, gli italiani hanno seguito per 20 anni Mussolini, gli italiani sono strani, gente strana, prima che gli entri in testa una cosa, devono passare decenni, capito? Gli italiani, adesso gli italiani hanno paura del Grillo, dicono, ma che famo? Ma perché prima che facevano? Sì, hai ragione. Su questo hai ragione. Grazie Giorgio, a presto, ciao. Savino, provincia di Cosenza. Buonasera. Vada. Ah, ci sei, ciao, buonasera. Dica. E anche al tuo compare. Compare, sì. Parenzo, che c'hai qualcuno ancora lì dalla depressione del Partito Democratico? Parenzo? Vabbè, sta facendo altre cose. David? Ma che sta facendo? David? Sì? Ma sei un imbecille, che stai facendo? Mandando messaggi mentre sei in onda? No, mi stavano scrivendo che forse arrivava Bersani, allora stavo cercando. Ma chi se ne frega? Savino, provincia di Cosenza, dai, che sta succedendo lì? Che c'è? Ancora depressione? Ma depressione totale, sono rimasto soltanto cameraman e colleghi giornalisti che mangiano la pizza margherita che si fanno portare dalla Pizza Ex. È rimasta, ecco, se vuoi, la TV cinese, che appena mi siete scappo, capisco perché c'è la cinese che ogni volta. Aspetta, eccomi di nuovo. Dalla Cina. No, come andiamo? Eccoci. Allora, una dichiarazione. Per la Cina. Cina libero. Diciamolo. No. Senti ingroia. Oscurati dai media. Se Bersani ci avesse risposto avrebbe vinto. Dai, ingroia, su. Dai, Savino, provincia di Cosenza. Dai, Savino, forza. Ciao Giuseppe, buonasera, stavamo dicendo, sono, è logico che sono in depressione. Perché? Ma ancora, dovrebbero essere ancora di più, perché sono pure una massa di bugiardi e di ipocriti. Basti sentire quelli là del Partito Democratico che sono venuti prima da te a parlare. Perché, dici? Non ammettono, perché non debbono ammettere per il bene di tutti? Perché non ammettono veramente questa sconfitta? Bersani paragonabile, diciamo così, in tema calcistico, a una Juventus, avevano 40 punti, dovevano ammazzare il campionato, invece sono lì praticamente per perdere lo scudetto. Bravo, che cosa, ma veramente, ma perché non dicono le cose come stanno? Che hanno fatto altro che si parlano di primarie, che loro è un partito democratico. Ma quello l'hanno fatto, però certo che l'hanno fatto un po' chiuse. Ma quelle primarie democratiche, che erano tutte tranne che democrazia. Guarda che tu stai parlando con uno, va bene, di 40 anni, sì, che nonostante tutto si è ostinato ancora ieri ad andare a votare sia a Camera che a Senato per Berlusconi, va bene. Io sono uno che viene anche, diciamo, per famiglia, vengo dalla destra. Però anch'io da quarantenne, con tutti i problemi che ci sono oggi in Italia, non è che mi è piaciuto più di tanto. Però, ma lei Renzi l'avrebbe votato? Ma io andavo a attaccare i manifesti, l'ho detto a tutti quanti. Io mettevo i soldi per la colla, di tasca mia, per attaccare i manifesti a Renzi. Ma se non altro, perché a prescindere, diciamo, sì, era un bel parlare e tutto. Io, va bene, in Matteo Renzi mi ricordo di me qualche anno dietro, perché la gioventù, i 36 anni di Matteo Renzi sono un patrimonio grandioso. Quando si è giovani si hanno le palle per poter dire e fare tutto. Invece questo vecchiume che noi ancora ci portiamo. No, ma guardi che nella sua analisi un po' farraginosa, però c'è un tratto di verità. Che cosa diavolo stai facendo? Si può sapere o no? No, ma no, stavo, adesso sono qua seduto. Giorgio dalla provincia, dai, che abbiamo chiuso, su così poi vai a lavorare. Giorgio dalla provincia di Milano. Buonasera Cruciani, complimentissimi. Vada, veloce. Velocissimo, cioè la colpa è sempre dell'elettorato coglione che non capisce e quindi vota Grillo perché è un voto di protesta. Anch'io, guardo, 54 anni, ho votato Grillo. Sì. Il PD perché perde, l'hai detto benissimo. Hanno Renzi e che cosa fanno? Mettono uno che nel 1996 era ministro dell'industria. Bravo, 96, Giorgio. Oggi sono vent'anni. È così. E sono vent'anni. È così, la realtà è questa, secondo me. Bravo, ovviamente. Se ci fosse stato Renzi, un sacco di gente anche che ha votato Grillo avrebbe votato Renzi. Perché... se mia nonna avesse le ruote sarebbe un calese. Vabbè, ma dobbiamo dare la linea allo speciale che viene dopo di noi. Pubblicità, c'è un giornale radio, poi lo speciale, continua la grande notte elettorale di Radio 24, consultate il sito radio24.it. E poi che dobbiamo dire? Ci sentiamo domani alle 18.30 ancora con grandi ospiti. Hai fatto un grande lavoro. Ti abbraccio fortissimo. A domani, grazie, 18.30. Ciao. Buonanotte. È finita! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Mi metterai nudo sul terrazzo. Che figata! Radio 24. La passione si sente.